aspetta Natali, però scusa un attimo, quel discorso si può fare se diciamo ha problemi hardware la macchina, allora sì, sono d'accordo con te, però se tu consideri il fatto che se c'ha dei dati dentro tu non puoi prendere il disco e formattarlo così, cioè i dati poi ti conosce, sono a questo alfa. Hai detto una posizione che lo senti, sta spiegando a Natalino qual è il problema, poi dal limite te lo spiega Natalino. Capito cosa ho detto comunque, sì, già mi ha seguito. Ah, ti ha capito, stava rispondendo a Natalino, adesso sta parlando con Natalino e poi Natalino ti riferisce ciò che è da riferire. Però siccome a me me l'ha già fatto, e quindi io sono intervenuto per questo, perché anche a me, disgraziatamente, mi è mancato un file, non so per che cosa, la mia unica preoccupazione, come ha detto Natalino, era riformattare tutto, quindi perdevo tutto, e invece Franco non ha riformattato niente, ha adottato un altro tipo di sistema, tutto qua. Capito. Sono una persona molto, ma molto competente, abbastanza per quanto mi riguarda. Poi chi ha parlato, Natalino, io non lo so, non lo conosco, non mi interessa, io i miei lavori me li fa Franco, siccome era qua domani sera, perché mi deve installare un'altra cosa nel computer, perciò ho detto se hai dei problemi adesso lo chiamo e al limite si fa vedere lì e ti metti d'accordo. Franco, se si è spostato un attimo, ho sentito la moglie a voce. Ciao Gianni, ciao a tutti, comunque buonasera. Sono un attimo al telefono, scusate un attimo. Ciao. Oh, già. E io? Che attendi, lui su cazzo del telefono? Se no, non ti vuole la cosa. Affero. No, non è che non lo sento per quello, esci. No, non è che ce l'ha là, non vedrà sempre 30 lo borsello. Natali, regalagli un ciondolo, così ce lo attacca al collo. Ah, no, ce l'ha proprio spento, perché subito ho detto Vodafone, non ha squillato neanche, ce l'ha proprio spento. Non gridare che stai strappando. Cava. E quindi, Franco? Aspetta un attimo, Torellino, rilassati un minuto che c'è un problema qua di computer. E quindi, fra? E quindi cosa? Ma ha detto già a Natalino così qual è il problema. Quindi lo puoi risolvere? Io lo posso risolvere, ma non gli formatto la macchina. Vabbè. Ok, io stavo ascoltando e ti ho chiamato in casa per quello. Sai cosa bisogna fare al computer? Digli autorini, diglielo. E quelli là lo muro. Ascolta, domani sera vieni per installare quella roba. Che la vieni? Dovrei liberarmi intorno alle 7, 6 e mezzo. Non c'è problema, già sono a casa io. Non devo andare da nessuna parte, sono a casa. Vieni tranquillamente, così inseriamo quella roba lì, perché se non va bene come hai detto tu, allora le colleghiamo al modem. Va bene, vai tranquillo che va bene, ho fatto tutte le prove oggi. E mi ha dato lo stesso problema che dà a te, quindi so già cosa è. No, quindi c'è un problema di fondo, no? Sicuramente è quello che hai detto tu. Cappa. Cappa che ci ha attaccato dietro, che cos'è? Quindi siamo 20.000 cose attaccate dietro. Vabbè, è una scatolina dietro, boh, inserita in una porta USB. Una scatolina. Ah, quella è la scheda FireWire. Ma che cosa che l'ha attaccata? Io stavo pulendo l'altro giorno, la roba che l'ha attaccata sul computer è una cosa allucinante, per carità. Adesso lo facciamo diventare un 2008, qui siamo a posto. Sì, ma tu dai a me, ti faccio assaggiare le ruote posteriori del furgone. Costa 2009. Ma facendoli assaggiare a ruota il furgone, penso di sì, può diventare anche 3.000. Va bene, Sandro, riprendi, tanto Gianni e Natalino sono al telefono sicuramente, riprendi. Spaga, fammi fermandomi qua, mondo e su. Se non stai facendo niente, ti avvicini, ti offro qualcosa. No, oh, dove pigiamo io al calduccio? Ci risentiamo fra un po'. Bene, va bene. Gianni? Gianni? Il telefono è un Natalino. Stanno amoreggiando. È tutto bene, fra? Quello che finisce bene già va bene. No, vabbè, ma lasciali, no, ma lascialo andare a cosa, D'Antonello già lo sa come farlo. Ma infatti, ma D'Antonello ce lo fa fare. Se è formata la macchina è meglio, no? Uscire quasi tutto a casa. Cosa stai usando? 920? K. Va bene, ottima radio. Io sono in attesa del padre di quella lì. Se ce la fa a mandarmela, prego. Ma è dove ancora, ma sono arrivati. Ma sono arrivati? Strano, perché ne ho visto. No, no, non ad Alfredo, capito, da Alfredo no. No, beh, io mi seguo da Alfredo, 950 lo prendo da Alfredo. FT 950 SAT, l'FT però è non TS, IAES, oramai la Kenwood è IAES, usa il marchio FT ma è tutto Kenwood praticamente. Vediamo come va, se è meglio di quello lì. Marco mi ha detto che è una bella bestiolina, qualità prezzo. Sì, sì, è un bel apparecchio quello. Sì, è un bel apparecchio, ho guardato le caratteristiche. Anche il 2000 è bello, eh. Certo, ma il 2000 sale troppo. Questo già è un prezzo equo, diciamo, là, per le mie tasche. Qualcosa in più, 200 euro in più della valutazione di quello, dai, siamo mai capiti. Per la valutazione di quello lì. Va bene, va bene. E così, 726 ce l'ho solo in 50 mega, quindi ho i 50 mega e i 40, quello lì lo uso in 20 e 80. È una verticale, la verticale però la prendo verso gennaio e febbraio, la verticale a 5 bande. Io adesso non c'ho più su, la 13 ma se ne è andata tutta. Ma quale vuoi prendere, la CP6? No, voglio prendere la quella della Daimon, quella lì, la CP6. K, sì, quella che fa anche 50. Sì, sì, esatto, infatti. Praticamente faccio la commutazione. 50 mega collegati al 726 della ICOM e gli altri HF collegati al 950. E poi gli altri HF li uso, questo andrà in 20 metri, l'altro 140 andrà in 80 e il 950 in 40. E va bene così. E in AM come va quello? Non mi interessa più la MM, fa. Una volta che arriva la radio nuova, porto la mappa, metto la multibanda. La multibanda e sull'altro lato metto la bibanda, la X700 che ho già preso. E giù. Oggi mi ho ritirato il palo da Luigi, che ci aveva il palo, mi aveva procurato il palo, quello già grosso da innestare sull'altro telescopico, e basta, ho finito. K, va bene, va bene. Gianni, ci sei, Natalino? Franco? Sì? Ciao, sono Rita, buonasera a tutti. Ascolta, ti voglio chiedere una cosa. K, Rita, ciao, buonasera anche a te. Ascolta, niente, quando attacco il computer dei jack dietro per l'amplificatore, a volte praticamente mi manca l'audio, non, per dire il karaoke, no, vado ad attaccarlo. cosa fa in professione, non lo so. Quello dipende dalla scheda. Bisogna vedere come è impostata. Perché a volte praticamente secondo, per dire, se vado a staccarmi direttamente da dietro dell'amplificatore dello stereo, poi vado ad ascoltare la radio, non esce più audio. Sì, perché quella c'ha, quella scheda lì, e tu praticamente c'ha un controllo che quando gli stacchi lo jack, lui ritorna in standby, si dice, ma non è il termine giusto. Però quando tu infili poi l'altro jack delle casse del computer, per esempio, lui lo deve riconoscere. Invece lo devo rispegnere, aspettare un po', poi riaccendere e funziona. Sì, perché quando tu lo stai rispegnendo praticamente lui ritorna alle impostazioni di default. Quindi, ma è normale oppure no? Non è normale, però ci sono schede audio che lo fanno. Bisognerebbe farlo sempre a computer spento con questi attacchi da diciamo. Sì, perché l'impedenza ohmica del, anche se tu inserisci un cavo, poi dipende poi dalla fonte in esterno che viene agganciata, capito? E sono tanti fattori. Perché me l'ha già fatto un paio di volte, io ho provato a staccare nel computer rimaneva sempre attaccato, però dall'amplificatore staccavo i jack e poi andavo a riattaccarli e non si sentiva l'audio. Allora, niente, la prima volta si sono spaventato e ho detto, non funziona più. E niente, poi l'ho riacceso l'indomani e funzionava, normale. Adesso non so se sta funzionando. Cappa, ricordati una cosa, quelle operazioni che tu fai, solitamente conviene sempre farle a computer spento, perché lì passa corrente, capito? Rischi di bruciarti qualche cosa poi. A volte mi attacco, capito, il mixer, quella roba lì, e niente, il mixer era in corso, l'ho portato ad aggiustare, però l'amplificatore ho provato e niente, faceva, lo staccavo e poi mi andava via l'audio, non si sentiva proprio più nulla. Infatti il mixer serve per quello, per non fare quei giochetti che tu fai adesso. Vediamo un po' che se hanno ripreso. Natalino? Non c'è di che, figurati. Quando posso essere utile, io do una mano a tutti. Bravo. Dimmi. Ciao, sorellino, buonasera. Ascolta, spiegami il mio, come mai quando vado su internet, che apro la cartella internet, ci sono solo le bambole gonfiabili? Quello sai perché? Perché tu sei un pochettino futtiveccio, tu sei entrato da qualche parte, quindi vabbè, lasciamo perdere. Perché sei un porco tu? Ah, vero sì. Ascolta, però invece di quella roba che ci aveva Luca, quanto ne hai recuperato? Tutta da buttare? No, ho preso un paio di pezzi, sì, un paio li ho fatti buttare. Poi ho preso un paio di pezzi e domani me li controllo. Vabbè, ricordate che l'unità ce l'abbiamo, a carbonati, che da lì manca solo la scheda madre. Non abbiamo scheda audio, la scheda audio recuperata lei. No, non c'è problema. C'è problema, vai tranquillo. Vabbè, già ne parliamo domani, dai. Così te lo do, glielo assembli, poi mi dice a me quello che ci hai messo, non ci sono problemi. Ok. Sì, tassa. Dimmi, frate. Dalla me quel computer, che lo metto sotto le ruote del furgone, così ne faccio tre. No, bello, quello, il computer non si tocca perché è a posto di tutto, è solo che io ho la mania di stare stacca a stacca. E tu dalla me, lo stacchi e lo prendi a me, lo metti in cassone e le faccio un giro col furgone. No, guai, è troppo bello, va più che bene. E se lo faccio diventare una striscia. No, non tocca il se. E se non si fida nessuno, no. Claudio, dammelo tu il tuo, che te lo faccio vedere con le sfumature. Fatti vedere domani, se lo do qua, ne ho un altro, non c'è un problema. C'ho questo che è nuovo, va benissimo, non si tocca. Poi ne ho un altro a carbonato e poi ne ho un altro anche in garage. Ti do quello, lo metti nel furgone e lo sciocureggi appena appena, capito? Vediamo che cosa può diventare. Se diventa un buon computer oppure se è una trompetta. E via. Lui a noi siamo bovari. Gianni. Nel Natalino sono sempre al telefono. O si sono spostati a qualche altra parte. Va bene. Mi prendete allora? Io già sono qua. Sono al computer, fra. Dopo le mie chiamate d'aria se ne scaricavo qualche film. L'ho messo a scaricare, già sta andando la grande, non sono problemi. Poi domani ricontrolliamo tutto a capo, vediamo un po' se è tutto in ordine. E facciamo un check-up. Non problema. Va bene, vai, vi saluto. Sono entrato solo per chiamarti in causa, per spiegare qualcosa a Sandro, visto che è così. Io ho chiamato a te proprio per non passare poi da imbecille, siccome lo so, perché me l'hai spiegato, perciò ognuno lavora come vuole, senza problemi. C'è chi lo fa come dici tu, c'è chi lo fa formattando tutto, forse fa più in fretta. E questo, ma guarda, formattare io lo faccio proprio in casi eccezionali, proprio quando non si può fare più niente, allora sì, sono d'accordo sul formattare la macchina, se no, no, non sono convinto. E perché tu pensa che se tu formatti la macchina, cioè tutti i dati che ci sono dentro, mettendo il caso che ce ne siano, non so il caso suo, quelli li perdi tutti. Sì, ne ha di roba, ne ha. Quindi non conviene, ma a meno che si attacca il disco, si attacca in una macchina, si fa il travaso dei dati, una volta che sei sicuro che i dati sono salvati, allora lo rimetti sotto e lo formatti e poi lo ributti dentro tutto. Ma dipende da chi lo fa. Vabbè, io devo sapere. Quello che mi hai insegnato, ho capito, quello che non mi hai detto non l'ho fatto, siccome ho visto come hai fatto l'altra volta qua, non hai riformattato neanche. L'hai portata là per essere più tranquillo in ufficio. L'hai riformattata, l'hai sistemata su quello che mi avevi detto e poi me l'avevi riportato, perciò. Io ho detto per quella santa. Va bene, dai, vi saluto e ci sentiamo più tardi, se coincide sono le cruci. Ciao Franco e Rita, Torellino, Gianni Natalino se ci sono, se no pazienza. Ciao a tutti, con Rix continuo a fare quello che stavo facendo. Ci vediamo domani allora fra. K, d'accordo. Ciao Fla, buona cena, buon continuo e ci sentiamo dopo al limite, se coincide. D'accordo. Torelli. D'accordo, va. Ci sentiamo se coincide dopo, se ne ho voglia, altrimenti faccio ascolto. Avanti Rita, riprendi con Franco. Ehi, ciao Claudio, buona cena, anche io sono andato a cenare. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Franco, ciao Torellino. Ciao, buon coricchio a tutti. Ciao Rita, salutoni, buon proseguo e ci sentiamo alle prossime. Ok, vai Vito. Buon coricchio a tutti, ciao. Sta chiudendo, sai? No, io sono in ascolto che sto lavorando, ci sentiamo dopo. Comunque sono in quel Rix. Ho sentito tutti scappando a cena. Che scappa qua, che scappa là, allora buon corretti a tutti. In effetti un po' di fame già ne ho, eh. Adesso oggi quasi vado e mi faccio una tazza di latte, dopo prosipo. Vedi, meglio di un bicchiere di canna, ma un bel bicchierone di latte, sano e fresco. No, ma io quando non ho voglia di cenare qualcosa la metto, se no mi alzo durante la notte che ho fame. È meglio sempre inglobare qualcosa, poco però inglobarla. Beh, certo sì, meglio fare 4-5 pasti al giorno che al solito pranzo e cena, e poi sì, si incasina di tutto. Tu inglobi un bel, no? E io faccio anche due merende la mattina, due merende la sera, più colazione, pranzo e cena, quindi siamo già a 7 pasti al giorno. Ma non è quando faccio i pasti, già mangio, solo che ho un metabolismo veloce, quindi già brucio. Cappa, va bene, va bene. Ok, dai. Lascio l'apparecchio acceso, vado a farmi questa benedetta tazza di latte, così sono più tranquillo, e poi mi dedico al lavoro. Ciao Vito, ci sentiamo dopo se ci sei ancora, ok? Buon proseguo. Ciao Tony, a tutti gli SQL in ascolto, ciao. Ciao, ciao. Di matto qua. Franco. Delta. Delta. Così, oh, ho ripreso, era al telefono con Franco. per qualcuno, stava ascoltando anche Franco, va bene. Ciao Rita, buonasera. Ciao. Poi chi è? Oh, sono io, non ridendo. Ah, no, no, a me non mi interessa, se io no, non ho problemi di questo genere. No, non ho nessun problema, non ho nessuno. Ma cosa mi dispiace, c'era Franco, stava ascoltando, è stata detta una parola un po' troppo brusca, sarà lui a prendere le conseguenze, va bene, d'accordo. Riprendi già, abbassa appena appena ecco, mi serve il disordio. Ma che bello, ma che bello. Già. Ehi, stavo abbassando, claramente il tempo. Mi hai toccato troppo forte, se l'ho abbassato, bene va. La grande, forse l'hai toccato come magari lo muovi. L'unica fregatura è quella lì, che c'ha le rotte in linea e si muove. Avevo quasi intenzione di bloccargliele, però qui ho detto, se voglio fare lo spirito, se fare la voce calda della frequenza, non lo posso più fare. No, si toccano il microfono, lascialo uscire, è troppo alto, te lo dicono, lo abbassi. Io me ne accorgo subito quando è troppo alto, perché era in bomba un bel. Capito. Ma questo qual è? Quello che c'hai in macchina, uguale a quello lì? Gianni, il caldo, ma io quando lo tieni normale questo qua mi piace più da casa che dalla macchina. La macchina c'ha una modulazione diversa. Lo so, sì, magari rende di meno, secondo l'apparato rende di più, capito? Così adesso è normale, qua. Adesso lo metto più normale, normale, amplificato ma normale, come esce? Benissimo, è perfetta la modulazione, no, leggermente lasciala che è buona, è bella, mi piace leggermente col sottofondo del letto. Cappa. E la casa esce più forte anche per l'antenna magari, e anche il tipo di apparato, e questo qui è un bel apparato e spinge a 6 watt già dalla casa, quindi è un apparato che spinge di più, non molto di più dell'altro, ma di più spinge. Stai lì, ma cosa hai mangiato di cagliura? La Nicola qua, mi ascoltate? Sono la Nicola. Ah, mi sembra Vittorellino, ciao Barra Agricola, forte e chiaro qua. Buonasera. Buonasera, ma sempre a rendici tu? No, via a lavorare, lavorare. Secondo me non mi trattore il tuo giabbo. Ehi, ehi. E se Maria davvero, io non riesco a capire quando è lui davvero e quando è Torellino, non ci credi. Ma ti ha detto? Che non riesco a capire quando sei tu e quando è Barraghico a vedere. Ah, Barraghico qua! Sorellina, non c'è sorellina! Sa radio rovescio, che è stato da quanto rovescio. Ma la sorte! Ah, non è lui! No, è Torellino. Se ne varia la matta, se ne varia. È una scena. Non fa molto bene. Bobore, non era lui. Bobore poco fa, chi era? Non era Edu. Ma mi sembrava cosa, Luigi a me dalla voce, infatti. Vieni come c'ha letto. Una massa viene scena, tu si fammi. Voglio vedere se imiti anche a me. Mi piace che ti imita anche a te. A tu a me scusi. Ma Barraghico quasi ti asciuga. Veramente io non ti riconosco, Tore. Per me sembra più lui, infatti ha detto, ma è un trattore Tommy, dico, pure la domenica ci buonerà. E faccio qua, arando! Faccio qua, ti ho messo arando qua, seminando! Tu sì, ma... L'altro giorno mi ha detto che c'avevo la rete rovescia e non potevo dare un controllo radio. E l'altro giorno c'era la radio macchina, un baracchino di danno, si dà un ricchio. Che ragazzi, è una cosa allucinante. Poi lì, macchina andi a fare teatro. Ehi, adesso chiamo le specchio e la musica. Cina. Ah, Luigi Vulcano lo chiama così, guarai. Giorgio, sei di Cina? Sì. Ti prendi già che sto parlando con mia figlia al telefono, un secondo. Se no la storia di Cana non mi è piaciuta. Perché praticamente ha sterilizzato questa cagna, però è rimasta incinta lo stesso. Aspetta, il cane aveva sterilizzato, l'ha messo in città lo stesso, e lui gli ha detto se l'ha passato qualche cane magari se l'ha fatta e è rimasta incinta. No, e quello lì che se l'ha fatta, io l'avevo crastato, invece è rimasta in città lo stesso. Racconta. Insomma, la gente un po' ignorantiva. E vabbè, ma... No, nel senso che magari certe cose non le sanno, va. Ehi, giro! Ehi! Aspetta, ti dicendo! Ehi! No, no, sto parlando di un altro... Barrai... Ricordo chi vi ha detto l'altro giorno, però spegni il trattore che voglio sentire bene il segnale, no, no, che poi non so se mi mette in moto, Lucina. Ma di quelle antiche? Dovrebbe essere quello lì, aveva il padre non sta più lavorando e quindi c'era lui, no? Comunque dovrebbe avere qualche annetto quel trattore. Ma è giovane Barraghicco, la mansia? No, è un ragazzo, avrà 33 anni, 35 anni. Ci la futi Barò. Non è contro la roba, no, che c'è la roba rovescia, non posso sapere lo strumento. Era prendendo il cioè. Ha pagato. Perché lui mi ha fatto troppo ridere, come hai detto così. Sì. Aspetta un attimo. Ciao, Rui. Ciao, Angela. Qualche giorno lo picchiamo, il tuo regino. Wow. Buonasera, buonasera. Buonasera anche a lì. Manteniamo il distanza, cos'è? Tu lo chiedi, non darle confidenza. No, no, è io che sono qui. Ma la mia figlia mi viene da dare. Ma dai, io dico sempre dammi il tuo rispetto. Ah, va bene. La paga. Ori, cosa ne dici? Allora, non bisogna dare confidenza a nessuno. Che cane è morto, fa la base, guarda. Via, no. Io la confidenza so sempre usarla, non me ne prendo più di quello che bisogna prendersi. Scherzo, rido, però non vado mai oltre. No, ma anche io non ne do confidenza. A te, Tarica! Eia! Ad ascolti! Eia! Ad avessi! A dopo! E io qua un posto, un trattore all'anno! Sperando che tu mi ascolti, io qua forse è chiaro! Le ruote della del trattore che viene d'acqua si chiama. Eia! Ma a tappo! Eia! Meglio così. Beh, salutone, dai. Io vado via, sto andando a pescare. Salutone, ciao Rita, ciao Gianni. Claudio, che ci ascolto. Ci ascoltiamo alla prossima, dai. Ciao, buona serata a tutti. ciao, ciao, ci sentiamo a Torre Vie. Beato te che ne Puglia. Io sono di Bruzzugano, sto così bene a Calluccio. Sto diventando così mandromega. Mi sembri gli anni grumiti di no, io dormo poco. Beh, il lavoro che faccio lì, prova a chiedere anche alla persona che tu conosci come lavoro io. E dopo mi dà la risposta. Ciao Torelli, ciao Angela. Ma aspettate che stiamo scendendo anche noi. Ah, stai scendendo? A pescare. Ma davvero? Vai, non sono neanche come si attacca l'amo. Neanche io, però ci sono, dai. Dai, saluto, saluto a soldati. Ciao Angela, buon divertimento. KK. Se ne prendete troppi i calamari già a Torre, già lo so dove abito, va. Ok. Raga, poi ce le facciamo ripieni, le zampette tagliate a pezzettini. Ma che precepto? E poi il forno. Posso? Sì, vai. Scappa, dai, ci sentiamo dopo e io rimango in quel rickshaw che vado a mangiare un boccone. Ti dico solo già che ho già dimagrito 5 kg, non ti dico altro. Che dieta stai facendo? La dieta è matto il medico, dietologo. Adesso stanotte sto mangiando carote e patate e un pezzo di pollo ai ferri e basta. A pranzo ho mangiato solo la pasta senza nessun condimento, in bianco con un po' di formaggio. Poi domani c'ho pesce a pranzo e verdure nuovamente a cena, sempre così, alternate. Ti auguro di resistere, io con le diete lì, sai, io ho fatto una dieta solo a base di patate bollite, carote bollite, tutta questa roba qua, ho resistito poco perché i sapori non combaciavano con il mio palato. Già, io devo farla per forza, già, devo farla per forza. Non perché ho problemi di nessun genere, però devo scendere per forza e mantenere un peso equo per il problema della schiena. Il problema della schiena non reggeva più, ero 18 kg fuori dal peso forma. Quindi devo rientrare in questi, non dico 18, ma almeno 10, devo rientrare se voglio che la schiena continui a essere a posto, perché altrimenti mi tocca il busto, quindi per avere problemi preferisco fare la dieta, scendere, sto molto meglio, non sto bevendo niente, solo acqua, niente caffè, niente nulla, la mattina solo un tè e basta, e durante la giornata solo acqua, purtroppo già, è arrivata anche la mia ora e va bene così, non ci sono problemi. Continuiamo ad andare avanti, se tutto procede bene, in giro di un mese dovrei averla terminata e poi devo seguire questa linea praticamente. Vabbè, dai, se ci siete entro dopo a farmi due chiacchiere, se sono gradito, e se no pazienza, dai. Uia, uia, Natalino, per carità di Dio. È un grande amico in questo periodo, non vuole toccato, è nervoso a tutto andare. Claudio, va bene, buona carica, poi sentiamo se arrivi te coincidi. Rita, cosa hai preparato di buono oggi? Claudio, guarda, sto ascoltando anche io, non mi dica. Io non c'ero in frequenza, non mi devi cercare quando non sono in frequenza. Ti ho detto cose belle, e quando uno l'ascolta a me fa piacere se dicono cose belle. Se poi non vuoi nominare il tuo nome, allora non entrare, stai zitto, ascolta. Ti ho detto cose belle, che sei un amico ma sei nervoso. Quindi, rilassati quando sei rilassato, ci sentiamo, va bene? Uia, uia, riprendi Rita, riprendi. Sant'Antonio mio, a 50 anni cosa dovremmo vacca, vaccarizzare? Ma chi io ascolto? Lo ti credi? Eh? Ehi, ma voglio dirti una cosa, Natalia, se mi vuoi ascoltare. Che c'era anche quell'altra persona che stava ascoltando poco fa, No! Quindi non va bene. Babbo. Ciao Tino, buonasera. Buonasera a tutti. tardi notte. Cos'è già? No, ho detto ciao Tinotto. Questo è un Tinotto, questo è un Tinotto davvero, perché no, dieta lui non ne fa, maledetto, che invece ha messo caffè da dieta. Hai visto, ciao Henri, un bacione. Tanti saluti da te. Mamma, ma come cava qua? Eia, ciao già. Ciao, ti saluto, abbi il tempo, Ciao Stefano. Ciao Natali. Asteriano, Già, ma cosa l'hai fatto a Tino? Cosa ho fatto che lo sovramuro io? Che bastardo, per la faccia. Ci credo, vabbè. La bomboletta qua. Io? Allora io vado, se arriverò, basta. Già, va bene, Enrica, va bene. Sei rovidici, che voglia. Già compensiamo di più. Però Tino è proprio in direzione tua, Henry. Già lo so. E in proprio in linea d'aria, in proporzione, siete tutti liberi. Maledetto. Maledetto, basta, sovravvolato, mia. No, per carità, ascolta. Siccome sto facendo la luce, sono in accappatoio, se mi scusate 5 minuti poi riprendo, va? Ci risentiamo, riprendi qua. Ehi, allora, Gianni, riprendi che io vado a mangiare un boccone, ve l'ho detto, proprio un boccone, poi già rientro, va? Riprendi Gianni. Ciao Tino, a dopo. Ehi, cappa, vabbè, va. Non carica. Rita, mi ha parlato sopra Tino. Ma ce l'ha fatta. Io sto per la faccia, Non si può mettere come la esce, non c'è trovato. Io sono con 5. Con niente. Con quante volte stai uscendo? No, guarda. Ti dà la pugnalata alle spalle. E anche tu ripero già lo passi, Così è voi. Io sono piccolino, guarda cosa attacco l'altro. Sì, guarda, sei un po' più di lui. Sì, anche il fantasma mi passa, mi sta passando anche il fantasma. Ciao, dopo là. Ciao, fai preparati, perché così ci fai male. Se sei tutto sexy, meglio che ti vesti. Che è uno squercos. Pitta, mangiatela. Eia. Guarda te. Io ancora no. Non mi siamo ancora alzato, mia moglie lo bacia madre. Tu gli hai salto il pasto forse. Ma così, no, io ho fatto pasta con i funghi. Cavo il fiore con le olive. Vabbè, io ho mangiato, mi ricorderò sempre il riso che ho mangiato a Tirli. Il riso con i funghi porcini appena raccolti, ui che profumo, ma buoni. E poi ho mangiato, come si chiamano, i tartufi. No, non li ho mangiati, buoni. Ma buoni però, un buon sapore c'hanno. Però costano, da tutte le parti li vendono, ma anche nei negozi dove vendono uvini, queste cose qua, ci sono sempre cisti con i tartufi. Ma e come l'hai mangiati? Come? Ma grattugiati? No, ho fatto la frittata con i tartufi. Tipo tagliato come il fungo, là. È così, forse grattugiato sopra il sapore, però si sente un bel si sente molto forte, è buono. E lì nelle zone di montagna è tutto pieno di questi tartufi. Addirittura questi qui li aveva fatti il suocero. Ce li ha portati lui per assaggiare, proprio perché tra l'altro noi non eravamo manco i veri amici loro di questi che dove abbiamo mangiato, ma praticamente noi siamo andati con una coppia di amici nostri che avevano conosciuto questi qui in viaggio di nozze e poi sono rimasti amici, capito? Loro vengono qua, loro vanno là, eccetera, eccetera. E siccome gli hanno detto che quest'anno erano con lui, ha detto venite lo stesso, non c'è nessun problema. A loro, vabbè, per dormire noi gli abbiamo dormito in albergo, però per mangiare ci hanno trattato qua. Ci hanno trattato proprio a palma di mare, infatti quando vengono qua saranno trattati allo stesso modo. Sì, ci hanno ospitato circa una settimana. Poi noi siamo, loro sono rimasti lì con la coppia dei nostri amici e noi siamo partiti a Roma. Abbiamo fatto Roma, Ostia, siamo andati a trovare altri amici in Ostia. Beh, siamo stati bene anche lì. A Ostia è troppo bello, tutto locale, sul mare, boh, è una figata. Sì, noi forse andiamo a Capodanno, facciamo Natale Capodanno dal 21, perché vediamo un po'. Dobbiamo decidere fuori a Europa. Noi vogliamo andare a Gardano quest'anno. Siamo andati già 3 volte, però Marco poverino era piccolino e non se l'ha goduta come se la doveva godere, capito? Ma non era sì, ma Marco no. E quindi vogliamo andare a portarlo, lui ce l'ha chiesto, papà, porta, noi non me lo ricordo, questo è quell'altro. E poi a questo andiamo lì, se ce la facciamo andiamo. Volevamo andare a Roma, a Natale, perché volevo vedere illuminata, volevo vedere Roma illuminata, fare le fotografie e così così. No, lavoro, è un casino. O meno me ne danno a Natale le ferie, capito? Ah no, Marcello, mio che te lo sai, deve essere bella Roma tutta illuminata, noi siamo la prima magia, però i bambini non erano, loro non sono riusciti, siamo andati solo a Genova con i bambini, però erano piccoli. No, noi siamo stati un po' di gusti, siamo stati a Gardano, Sirmione, Venezia, Roma, poi siamo stati a Terni. Siamo stati all'Aquila e abbiamo girato un bel po' là. Noi quasi ogni anno un viaggetto ce lo facciamo, anche se di pochi giorni facciamo sempre Dina permettendo. Vabbè, con noi adesso vediamo con gli amici, dobbiamo decidere ancora se rimanere qua o se partire, mollare a tutti e andare. Per bambini ve li portate, sì. Sì, va bene, per forza. Andiamo al camper. Infatti, come se fossi in casa. Tanto freddo c'è di notte, d'inverno, ma hai dormito già? Sì, abbiamo dormito. No, non c'è freddo, c'è attaccato la stufa. Poi una volta che sei dentro, che sei sempre dentro, l'ambiente è piccolo, quindi si riscalda. In più attacchi la stufa, freddo zero. Ma la stufa a quanto fa? Dove ci fosse? No, già. Ah, dico che a gas, ho capito. Adesso stavo facendo quello elettrico, no, perché c'hanno anche l'attacco per l'elettrico, il camper. No, sbaglio. Però la ventilazione abbiamo anche, no? Che la manda da tutte le parti, in canalata, da un'idea di chi vuole. Sono di nuovo qua. Scappati. Ma invece lo sai cosa abbiamo fatto con le stufe? Quando la Sisa stava andando con le stufe a 5,90 euro, abbiamo avuto la brillante idea, sia io che mia moglie, fare la spesa. Tutti e due abbiamo comprato la stufa. E mia moglie, quando è stata la tacca, le fa, già, mi ho preso una stufetta, la vuoi vedere? Quella per il bagno, per cui ci scaldiamo quando ci facciamo il bagno. Non mi dire, ho detto, anche tu la spesa, no? Prima abbiamo detto, domani c'è da fare la spesa, poi uno e l'altro abbiamo fatto tutti e due. Ne avete due. Vabbè, già, non l'hai buttata, No, quello no, ma le stufe erano due, cosa te ne vai? Ci abbiamo già riscaldamento a casa. Tutti i due stufe, la stufetta la volevo prendere una per quando ti fai il bagno, l'attacchi per scaldare l'ambiente, no? Magari te lo fa quando i termosifoni ancora non sono accesi, però ti scaldi l'ambiente con la stufetta e via, ma che tra di due cosa te ne vai? Ma qual era quella che se facevi una determinata cifra di spesa, aggiungendo mi sembra 5 euro, adesso non voglio sbagliarmi, ti regalava la stufetta, così? Ehi, a 5,90 euro. Ah sì, quella no. Noi anche a me, sono andato a fare la spesa, ma giusto così, di passaggio. Ho detto, guarda che se aggiunge 5 euro, ho detto no, grazie, non me ne faccio niente. A parte che io guardo a legna, quindi non è che... Quello lì non lo eliminate. Sì, ma anche noi non è che ce la facciamo più di tanto, l'abbiamo presa solo per quando ci facciamo il bagno. Scalda l'ambiente come lo scalda, come cacchio si chiama, quello Big Hippie che scalda il bagno, eccetera, eccetera. Ecco, una stufetta così per scaldare l'ambiente e basta, tutto lì. Poi, per il resto, non è che ce ne facciamo nulla, a meno che il riscaldamento non funzioni e cose varie, allora sì, fai di rigorra, perché quando c'è la tredicesima, se per qualcosa che non va, ci deve essere lì. Vabbè, già, quello è normale amministrazione. Adesso l'altro giorno, andando a lavorare, mi si è accesa la spia dello scarico della macchina, piuttosto non ha mai fatto difetti questa macchina. L'ho portata alla concessionaria perché era un po' di tempo non li facevo italiani, però andavo all'aggi più vicino a te, no? Quell'aggi più che c'è lì, Punti che si chiama, mi pare. Ti cambiavo l'olio, filtri, candele quando c'era bisogno, insomma, la manutenzione è bene o male, gliela facevo. E mi ha detto cosa? Mi ha detto, questa qui si è accesa perché tu non stai facendo la manutenzione, si è intasato la valvola che c'è praticamente prima del catalizzatore, è quella che magari, boh, non so cosa faccia, fa tipo polmone per il catalizzatore per non far passare fumo sporco, là, sporcizio. E c'è tutto quanto intasato perché questo vuole pulito, un italiano, noi facciamo la pulizia, non è stato pulito, c'è intasato, adesso io provo a pulirlo, se va bene così. No, dice che lo devi cambiare, costa 80 e passa euro. Già che c'era, gli ho fatto fare il tagliando, mi ha detto quanti chilometri c'hai? 110.000, ci vuole anche la cinghia di distribuzione, vai! E vabbè, dove fare? Anche io voglio le cose principali, dai, me ne faccio qua, non è che pure la macchina, insomma, vale la mia manovalanza, non quella del meccanico. Quella del meccanico, quando devo cambiare la cinghia, per dire, allora, insomma, faccio fare a lui e me la sbrigo prima, diciamo. Sai cosa mi ha risposto? Metto, io ho visto che tu cambi filtri, cosa, però è la stessa cosa, batti la faccia senza sapone. ogni frecciatina. E ha detto che praticamente quella macchina che ho io, come tutte le nuove adesso, ha dei parametri da misurare. Lui ha attaccato un computer alla macchina e gli ha detto subito dove era il difetto, lo sai. Praticamente loro non lavorano più di tre video. Lui dice tutta la macchina, aveva scritto che i freni erano a posto, che le pastiglie non erano consumate, tutte queste cose qua, tutto li scrive. La tecnologia sta avanzando, la manovalanza sta diminuendo, quindi bisogna stare dietro a queste cose anche. Senti, è così. Cioè praticamente lì dice tutto questo macchinario qua che attacca un terminalino, li alza un affare perché c'è nel cruscotto delle marce, non nel coso delle marce, dove si spingono gli uggiti, li alza un affare e attacca lo spinotto, tac, e gli dice tutto. E mi ha detto, guarda, adesso non lo dovrebbe più fare, perché hanno fatto la pulizia, come sono uscito la luce si è spenta, non c'era più nulla, ho detto, guarda, vedi, era sporco, non dovrebbe più fartela adesso, comunque c'è la cinghia, portamela lunedì perché non ce la faccio, mi ha fatto un tagliando, la cinghia non me l'ha cambiata, adesso gliela faccio cambiare tutte le cinghie, anche quella del condizionatore, prima che si spacchi e ti lascia a piedi. Vabbè, già, una volta che ci sei, che la firmi, conviene fare tutto, anch'io faccio così, io faccio cambiare tutte le cinghie, una volta che fai la cinghia di distribuzione, poi non è che sarai altri tre anni senza pensarci. Rita. Hai visto, ah, bubù. E poi ti senza parlare, 300 euro di gomma gli ho messo l'altro giorno. Ehi, me l'avevi detto, mi avevi detto che sì, anche tua moglie mi sembra. Sì, mia moglie, tutti e due insieme, siamo al telefono, dove sì. E te sono dal gomito, sto cambiando la gomma perché mi si sgonfiava una gomma, l'ho portata a controllare, dove si era buccata e mi ha attaccata già. Non è che si è buccata, non guarda dove è consumata, era consumata all'interno, c'era l'anima che praticamente tu lo rovura. sì, il film del ferro, già ne avevamo già parlato, via. No, io invece sono andato stamattina ero da altre parti. Ieri mattina sono uscito prima a Sentino da un amico che lavora lì a Coscia di Donne. E poi rientrando sono passato in quel negozio di pesci che c'è lì a Ripunti, lì all'incrocio, diciamo, per quell'affare della luce già, però questa qua era un po' disinformata, non sapeva cosa dirmi, praticamente mi voleva abbordare tutta la centralina, 35 euro, ho detto no guarda, tanto mi per la luce, ho aspettato più, aspetto meno, vado in un altro negozio e chiedo. Infatti, non è che Cesare Battisti, che lì hanno qualcosa in più, non lo so, ma qualcosa in più ce l'hanno. Chi era specializzato era Animalia, era un negozio che c'era prima, però c'aveva la specializzazione, c'aveva anche tipi di animali che non ho mai visto da altre parti, tipo ragni velenosi, pesci tropicali, marini velenosi, tutti colorati, il pesce istrice c'aveva, quello che sono, se lo sfiori il cazzo ti fa morire, e sono pesci un po' pericolosi. Ma come un piranha? Interessante. Mi associo, la ti do. Quando appena di aglio ho avuto i piani a casa, li ho anche allevati e fatti grandi, e c'era proprio quelli di Ripunti, li ho venuti a quello. Se l'ha messo col vasco nel grande grande, sono enormi adesso, enormi, e te bari ignorare. Ah, già, ma te li conoscono, sì. Non lo so adesso. Perché hanno tentato più volte di mangiarmi, ma non ce l'hanno fatta. Oddio. Allora, caro, dimmi una cosa, tu so già ci stanno nel mio acquario. E infatti ti stavo chiedendo quello, perché ti posso dare, hai due alternative, se è grande il tuo acquario, ti posso dare mia suocera come piranha, la mia sorella come grongo. Ma no, 60 litri di acqua, cosa vuoi sia? Un po' di sciarli. Ehi, ma se fa la pezza ci sta. Cazzo già, sei malefico. No, ma scherzato. E vabbè, le suocere sono sempre così, sono sempre mari. No, la mia è brava. Brava la tua. Ehi, siamo arrivati giù. Oh, adesso perché c'è Stefano davanti. No, sei così. Poi non vuoi, non venite a Rita, Stefano la sta minacciando, mi c'ha la mano così, mi dice e dice che va per male. Fermo, fermo, coltello, no. No, è bravo. Ma vai, mai ve l'hai fatto un giro in coccarte? Stefano, no. Pensa a Milo, di chi ci vuole i macchi, le bombe, la macchia, la boccia, a mezz'ora, del capo, la 131. No, mia suocera non è cattiva, perché non posso dire che è cattiva, però è un truffolo, è un truffolone. Poi, la mia è brava, ma è troppo rompipalle, per carità, è un versillante, ma è stata sempre così. Figurati già, figurati tu, è una cazzata. Non me ne frega niente di chi ascolta, non me la fu tenuta, non sto dicendo niente di male. Ma tu immagini, c'è una roba che è due anni, anzi un anno, quanti anni è all'edra tua madre? No. Un anno all'edra, eh? La casa chiusa, sta pagando condominio, perché paga condominio, la luce, guai seguire tutte queste cose, la luce, il telefono, perché arriva lo stesso, abbonamento TV, qualsiasi cosa, bisogna andare lì, controllare tutto e fare, e lì non ci avete l'anno, però non vuole andarci nessuno. Perché deve essere che è affezionata, tante volte non possiamo capire, gli anziani, no? Ci sono cose che mio padre dice per dire, quando gli dico una cosa, dice, quando sarai anziano tu lo capirai, adesso non puoi capirlo. Ma allora vive con te? Sì, mia suocera. Sì. No, è la casa di riposo all'Edra, la miglior casa di riposo che c'è in tutto Sassari, non perché sia il di mio cognato, perché è la sua, lui è direttore di tutto ed è la sua. proprio lui il padrone, a Ledra, lì via Carlo Felice, una bella casa di riposo, servizio e reverito, non manca niente. Ma dico questo, sei lì, tra l'altro ci lavora anche mia moglie, quindi vedi la figlia e al figlio tutti i giorni, ok? Beh, vuole andarci anche oltre l'orario di lavoro, vuole fare determinate cose anche fuori dall'orario di lavoro. Cosa ti posso dire? La chiama durante il giorno, cioè è una cosa allucinante, è troppo assillante, troppo. Gli ho detto, perché loro del suo, tra lui, se poi ce ne andiamo un po' lì, così la teniamo aperta, non perché io mi voglio risparmiare la luce, il gas, non me la putti nuda, esatto, vabbè la luce la paga lei perché non vuole pagare niente a nessuno, però il gas, dico la bombola se la consumo, me la compro, ma giusto per tenerla un po' aperta, siamo andati l'altro giorno con Franco, ho aperto il rubinetto e me ne è parlato il rubinetto della guzzina in terra, a chi l'ha pratico, capito? E quindi cambiato rubinetto, cambiato gruppo, fate, ogni volta che vado lì c'è qualche problema. Ho detto, la usi questa casa, oppure, non lo so, vedi tu cosa vuoi fare. No, quando non ci sono più, Anna, e tu mi dici se la vendono. Vabbè, vuol dire che va giù 80 milioni, 80 mila euro in banca. Quando la pensano così non li puoi smuovere, No, se io domani decido di andarmene dall'Edra e tornarmene a casa mia, mi sei tu e in mezzo. Me ne vado a casa mia, me ne torno a casa mia. Ma è di nuovo traslocare la roba che ti hai portato lì, ma problemi tuoi, è una cosa allucinante. Ma tuo padre, per come l'ho visto io, per come lo conosco io, nel piccolo, ma ne manco a paragone come Giuda, è di rubosi che siamo rimane, poverino. Mia suocera, ma manco seduta, anche seduta sta sempre parlando. No, mio padre è molto riservato, quando era lui sempre stato, chi lo spronava a parlare è la mia madre, perché lui è una persona molto riservata, non si intromette mai nelle discussioni, gli altri se non interpellano, è tutto così, invece lui va a busto d'oro, fa vedere con una commessa per dire una cosa e subito interviene subito l'altro che c'è vicino. Giovanni, gliene può approfittare. Stavo salutando, mi stavo salutando e poi ci siamo sovrondurati. Ciao a tutti, riprendete, divertite, avrà. Rita, le prendi tu suono, ti fanno parlare questi qua. Ma aspetta, vogliono un Ferrero Rossi. Ammazza. Vabbò, ciao. Ehi, ciao, Tino, ciao. Ciao, questa è dove mangiano bene il cioccolato, poi si lamentano che ci hanno i brufoli nelle guance. Questa è la moscerina. Un moscerino ti ha mangiato. Mia. Ah, comunque ti devo correggere, c'è il Paolo VI che è molto bella come struttura. Io penso che il servizio che faccio, tante volte ho fatto urgenze, ho visto come struttura il Paolo VI, non dico che l'Edra non sia bella, per carità, ma il Paolo VI lo stesso è molto bella, molto ben tenuta, pulito come posto, i vecchi sono ben vestiti, tutti quanti ben tenuti, è un bel posto, diciamo, è un bel parco, un bel giardino, e anche quello molto bello come casa di riposo, anche se io sono contrario. Un contrario, perché gli anziani sembra che aspettino la morte lì. No, vabbè, già, no, non conosco il Paolo VI io. No, ma per gli ospiti che ci sono lì va bene, è una struttura. Non so, Manna mi stava dicendo che mi pare che l'hai anche visto, insomma, hai visto quello che c'è. Ma mia suocera non è lì perché è malata, non ha assolutamente niente, nel modo più assoluto. Ha un po' un problema alle gambe, come si dice, una leggera osteoporosi, però niente di particolare. Però è lì perché a casa sua era sola, quando è morto mio suocero, i figli hanno deciso, cioè il figlio ha deciso di portarla lì per stare in compagnia. E lì poi lei si è affezionata a tutti gli ospiti che ci sono, lei è indipendente, sale, scende da sola, va a mangiare, c'è la camera sua, tranquilla, con il televisore, con tutto, quindi non... È come che... Solo che chiaramente c'è anche la figlia, quindi, capito, si sente un po' a suo agio lì, non è perché è malata, no? Perché lei ha già provato a stare da sola e purtroppo non ce la fa a fare niente, perché ha problemi alle gambe, non ce la fa a camminare, a volte tocca stare seduta e quindi insomma si stanca, eccetera. E quindi stava sempre a letto, allora per stare a letto il figlio ha deciso di portarla lì, almeno si svaga, tutto lì già. Beh, quello è un caso diverso, lì ci lavorano tutti e due i figli, quindi è un modo anche per stare vicino ai figli, però ci sono molti che per sbarazzarsi non lo fanno, perché non li vogliono in casa, e detto chiaramente, io mi sono casa di riposo che ne parlerò proprio per ticcare, sai benissimo che io fornisco tante case di riposo e... Io mi sto certo degrado, per carità di Dio. Ehi, ehi, c'è qualcuno che vuole entrare? Ho sentito un rumore sotto. Pappa. Già, lo so, lo so. Ci sono molte cose che non vanno bene. L'Edra, diciamo che è una forse di quelle poche molto aggiornate, di quelle aggiornamenti, tu immagini che... Da poco ha cambiato le celle frigo dove le ha comprate lì dove lavora Franco, perché erano fuori norma, da quando ha aperto a adesso è andata fuori norma con la legge, con quella ISO 9001, ISO 9002, e quindi ha cambiato le celle, non è stato lì a pensarci due volte, se ce l'ha a fare i lavori li fa sempre, personale, figura, bisogna in 40, erano così, 40. 42 dipendenti, guarda, un gol. Ah, i dipendenti. Quanti sono i dipendenti? Una 30. 30 su 42 ospiti, guarda, un conto già, tra amministrazione e tutto. Sono abbastanza. No, ma si vede che è una struttura nuova che non è costruita da molti anni, quindi è all'avanguardia, si vede. Ma ce ne sono tipo quella di Crunici, carità di Dio, San Pietro, te ne devo nominare altre. E ne ho visti, guarda, io sono andato anche di notte, c'erano tutte quante, guarda, mi è venuto da ridere, ti dico la verità, c'erano tutte quante le gambe parcheggiate, le protesi. No, qua c'è un direttore sanitario e... Direttore sanitario, fisioterapista e la dottoressa per gli anziani, diciamo, come ti chiamassero la parola? Non si chiama già la dottoressa per gli anziani. No. La dottoressa per i vecchi. La geriatra. La geriatra. Ho capito. E quindi è sempre fissa la dottoressa. Sì, tutti i giorni, viene la macchina o la sera. Visto. È già una cosa bella. E vabbè, io frequento, giro tanti istituti, tante case di riposo, tanti alberghi, ne vengo tutti di colore, per carità di Dio. Se facessi un giro, guardassero bene le cose, non ne so. No, quella lì si vede che è una struttura abbastanza pulita, abbastanza bella, grande, coso, spaziosa, eccetera, però ce ne sono certe. Guarda, io andavo per dire ai cronici, tutti quanti sbraghettati, tutti quanti normali, a fare la roba di cugna. No, ma guarda, non te ripeto perché ci si ama, ma io quando vado è un albergo. Mi hanno detto, adesso parlando di queste cose, ma è vero che il Toluca è diventata una pensione per anziani, cioè non una casa di riposo, perché non può diventare, non ha i requisiti. E che stavo leggendo nel giornale da poco, dice che volevano evacuare il Toluca. Ma lo Toluca non era un ristorante, è bitteria. Sì, è diventato, lo fornisco io anche a quello. Sì, è una casa di riposo, dai. associazione, sentito l'associazione, Gesù Misericordioso, cos'è Gesù? Ma è abusivo o no? Secondo me sì, non lo so, perché ma è praticamente il padrone, che era Giovanni Casula, il padrone del Toluca, il fratello di Antioco, quello che c'ha il ristorante tre stelle lì via Focellana, ma è sempre lui il padrone, pure ha venduto a qualcuno, cioè non ha più compreso venduta, è la prima cosa che intendo qui. Infatti il Toluca era uno dei ristoranti più rinomati a Plattamona, dove facevo ricevimenti matrimoniali a Tandare, lavorava anche un amico mio, Gico Zalo, era un bel posto, io avevo mangiato a matrimonio meravigliosamente bene. Non capisco il perché l'abbiano dato o in gestione o venduto, non te lo so dire, però c'erano altre persone che hanno due case di riposo, non una solo due. Ci ha lavorato per tutti, però io niente. Sì, perché a quanto so io non è in regola, a quanto so io. Poi non so se saranno messi in regola adesso. Allora mi ha detto che con un casalude va a rendere malato. Sì, via. Un casa doveva già? Un malattia. Per carità di Dio. Ma come ci fai? E con che coraggio ci portano gli anziani? Sì, ma con quale struttura? Cioè ma vi rendete conto, come dice Gianni? È una cosa allucinante e vergognosa. Cioè, con quale criterio? Per fare una casa di riposo ci vuole una struttura adeguata. Una struttura adeguata, lì all'Etna c'è la palestra, c'è la chiesa, la cappella per la chiesa, c'è un ambulatorio medico con una cosa allucinante, c'è una sala dove fanno fisioterapia, cioè è grandissima perché è quattro piani, mi già, ci sono due piani sotto, hai capito? Cioè c'è una cucina, vabbè, il Toluca può avere solo la cucina all'altezza di poter fare una cosa del genere, le camere per far dormire la gente, ma l'ambulatorio medico, la palestra per queste persone, cioè tutto il materiale che serve, tutte le sedie a carrozzelle, i letti fatti apposta per i malati che devono dormire in una certa maniera, inclinati, cioè ci sono delle camere che sembrano ospedali lì dove lavora mia moglie a letto. Veramente, cioè dei letti particolari dove tu schiacci, si solleva da sola la spalliera, si ribalta la giura, cioè cose allucinanti. Tutte queste cose lì dove sono? Sì, dove sono? Si rimane, le dina fanno mica le facce. Ho fatto un po' in breccia sicuramente quello lì, ci ha lavorato una amica e mi ha detto che se ne è scappata, ha lavorato per un mese e si è andata via perché ha detto che non erano condizioni di trattare gli ammalati, quindi. Poi ha lavorato mia cugina dicendo che il marito stava portata via, ha detto vai, non va bene lavorare così, è spuntato. Forse c'è qualcuno che vuole entrare, allora torniamo al discorso che faccio io, è inutile che uno vada a risparmiare il proprio genitore anziché spendere 1500 euro al mese per dire servito, reverito, fatto di tutto, lì all'Edra la verità secondo me cioè, è caro perché la struttura è cara, c'è tutta gente che è veramente a quattrini, perché mia moglie me lo dice, è arrivata la madre di quel giudice, è arrivata la madre dell'avvocato, è arrivata la madre del direttore generale di quello, vabbè, sono tutte cose, ognuno fa le sue scelte, ve lo dico, in base al prezzo questa gente offre, cioè tu non puoi andare a pagare 500 euro e vedere tua madre o tua nonna o un parente cucato in terra perché è cucato lì. È una cosa allucinante. Io personalmente cioè avrei abolito queste cose perché o sei all'altezza di poter fare una cosa, adesso lì c'è anche l'RSA, mi pare si chiama, così è, l'RSA che è la convenzione della USL, eccetera, gli hanno dato finalmente dopo tanti anni, perché stava anticipando tanti di quei quattrini, però dico, una volta che c'è la USL di mezzo, il problema è risolto. Le altre io le avrei tutte chiuse. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Chi è? Le prendi già. Ehi, lasciale appagare il monumento mica, non ti credere che sia uno rifiuto. Anche io quando facevo un servizio ambulanza per pagare i trasporti si buonava un bel di tempo, dopo 3-4 mesi te li davano, perché ti davano, ma dopo 3-4 mesi. Hai ragione già, mi stava dicendo Anna così, perché mio cognato fa la fattura, anticipa i soldi, fa la fattura e a lui gliela rimborsano dopo 180 giorni. Così è. E molte volte ti dirò che, diciamo, capavamo l'ambulanza, nel senso di guasti, di benzina, di tutto, adesso dei trasporti che facevamo privati, perché dalle marce che ci davano, dalle offerte che ci davano, che se no fosse stato solo per la selle capavi poco, però ti dirò, era una forte, quando arrivavano per dire 8 milioni, 10 milioni, capito? Tu immaginati mio cognato per anticipare, non dico 100 milioni, ma quasi, per avere dei sussidi particolari che l'ASL dà al mese, capito? Adesso non so quanto deve anticipare, 30-40 mila euro ogni volta, e poi gli rimborsano a 180 giorni, perciò, vedi tu, è un casino qua. Però tornando ai discorsi, cioè, che avevamo poc'anzi, è una vita che queste persone debbano avere una vecchiaia a posto, capito? Devono avere una vecchiaia a posto, perché tu non puoi buttare una donna, un uomo che ha fatto tanti sacrifici, uscire a mondetta, è allucinante. Oh no, Rita. A me mi hanno definito quel posto lì come un lager. Un lager nazista. L'ho detto Luca, te, certo. Ma ce ne sono anche altri, vedi? Quella che si assomiglia molto all'Etra, può essere Bagiara, che è nuova, una struttura nuova, però mi hanno detto che anche lì ci sono cose che non vanno bene. Pure è nuova. Sì, anche quella Paolo VI, quella che c'è via Valdezza, vicino a casa, a Montevurru, quella lì è molto bella come struttura. Sì, però vedi, quella non la conosco, ho capito come, ma non la conosco, forse mio cognato sì, però le Bagiara, mio cognato la conosce, e parlando con delle persone che stanno all'interno, eccetera, ciò che ha l'Edra, le Bagiara non ce l'ha, eppure è una struttura nuova, capisci? Cioè, tu immagini che mio cognato paga un medico che fa ambulatorio dalla mattina alle 8, la mattina alle 8 arriva e va via alle 2. Ok, ambulatorio fisso lì, e controlla tutta la mattina, fa il giro, come che sia un ospedale, assieme al, c'è un assistente, questa che sta lavoro fa geriatra, così ha detto, e poi ci sono tre infermieri professionali, mentre gli altri sono tutti portantini, ok, fa il giro assieme a tutti, controlla tutti, visita tutti, se è da visitare in ambulatorio la fa portare giù, ci sono gli ascensori adibiti per le sedie a carrotelle, ci sono gli ascensori adibiti al personale, c'è una struttura all'avanguardia, capito? E paga un medico dalle 8, ti dicevo, alle 2, pagato da lui, dall'amministrazione, come vuoi chiamarla, dall'Etra, pagato dall'Etra, intanto dobbiamo andare a casa in freddo, e poi è reperibile nel caso succeda qualcosa durante la notte, lui arriva immediatamente, e così la geriatra, capito? E gli infermieri tutti a turno, fanno il turno, la notte c'è sempre il medico reperibile per non stare lì e a casa, c'è qualche problema, lui interviene subito, e sempre due infermieri professionali di turno, due di mattina, due di pomeriggio e due di notte, capito? Buono, lì si stava cercando gente che me ne vada quel postaccio. Anna da poco, perché una di Porto Torres, perché ce ne sono tre di Porto Torres, a me mi conosco di vita, ma io non le conosco sinceramente, perché sono molto più piccolo di me. Una vinto il concorso all'ospedale, tra l'altro aiutata molto da mio cognato perché è una bravissima infermiera professionale. Ha vinto il concorso all'ospedale ed è andata via. Ce n'era un'amica di Anna che aveva terminato a poco il corso di infermiera professionale e l'ha fatto entrare. Adesso per il momento sono al completo. Se c'è qualcosa già ti avviso, perché no? Io lo sai che con gli ammalati ci so fare, è quello che lui sarebbe stato il mestiere che a me sarebbe piaciuto di più, ma non perché per guadagnare, è proprio perché ce l'ho come indole, mi piace assistere gli ammalati, c'ho pazienza, capito? E quello è il carattere che ci vuole anche con questa gente. Pazienza Gianni mio che ci vuole, la pazienza, io a volte Anna non fa quel lavoro, sta in ufficio e segreteria e in amministrazione assieme a un'altra, a una segretaria più grande di lei, aspetta chiudo la porta, e fa vedere un telefono con la figlia, che è Reggio Emilia, per carità è, la tiene sempre a bordo. E ci vuole molta molta pazienza, io ripeto, mamma mia, ma anche Anna oramai si è affezionata, ci sono molti vecchietti, la chiama, lo sanno chi è, c'è gente rimbambita, ma quando mi vede una che mi guarda e muore, ma dove stiamo andando, mi dice, ah, la mia moglie, e chi è tua moglie, la dottoressa, non è la dottoressa, e chi sei, e come ti chiami, sposato sì, ah. Ce n'era una che mi si attaccava a me per braccio, oh yeah. A trovare a San Camillo gli ammalati un periodo, perché avevo fatto un servizio qua, avevo fatto un servizio molto brutto, avevano spinto una ragazza in sede a rotelle a San Camillo, uno matto, lo stesso malato, e l'aveva spinta dalle scale, l'aveva fatta rotolare dalle scale con la carrozzella. E l'ho presa io in ambulanza, era un bel messa male, c'aveva braccia, gambe fratturate, l'ho tutta quanta prima, avevo messo la steccogamba, la steccobenda, il rame, tutto quanto, abbiamo tutta quanta bloccata perché già era paralitica, ma braccia, era una gamba da me. Beh, fatto sta che sono ritornato a prendere un foglio perché nell'urgenza hanno fatto il foglio di chiamata, siccome solitamente quando chiamano ci fanno il foglio, perché loro appartengono alle selle e poi ci rimborsano l'urgenza, capito? Per l'urgenza non ho pensato al foglio, non ho pensato a nulla, ho preso, sono partito e poi sono ritornato in un secondo momento per tirare questo foglio. E mi si è attaccata questa ragazza, una ragazza che non era matta, però la, diciamo zotta, eccetera eccetera, una bella ragazza, ci siamo messi a parlare, mi ha detto se voleva mi faceva visitare tutte le stanze, ci siamo messi a parlare, abbiamo parlato di alcune cose, del modo che aveva di vivere eccetera, e a un certo punto questa qui si è affezionata a me, mi ha detto vieni a ritrovarmi. E quando me ne stavo andando questa qua mi si è attaccata proprio, cioè non riuscivano a staccarmela da addosso, erano, c'erano due infermieri che cercavano di staccare, lei che piangeva, si attaccava a me, ti voglio bene, qua mi ha fatto troppo male, mi sono così turrato. Già lo so, si affezionano molto, si affezionano un bel perché sono persone anziane che sono lì alla, insomma, a contatto con tutti, qualsiasi persona che vedono spesso si affeziona, lo sto dicendo, io c'è un periodo ce l'avevo spesso, pure mi sono più andato, perché stanno sempre chiedendo, facendo, e c'è una che la madre del come si chiama lui? Il figlio di quella Giorgettina, no? E quella che si dà carrozzelle che sta sempre in gran centri? Gli Apeppina, come si chiama? Pliapes. C'è la madre di Pliapes, sai chi è, no? Quel presidente del consorzio Zir, un altro senza di nome, Pliapeppina. Chi c'ha tutto Biccio che vede in giro? Ecco la sedia a carrozzelle, ma è troppo forte. Come gli ha visto? Non può mangiare. Allora c'è dentro in grancende, ci pone tutto dentro la borsetta. Tu gli fai grancende, cioè quando viene la figlia? E beh, ma come sai? E Anna le fa di occhio, no? Lei svolta la borsetta. Lei svolta la borsetta. Ne grancisce tutto. Tu dici che vedi i pettini, i bennarelli, di tutto. Riesci a vedere male, eh? Cosa hai fatto oggi? E siccome gli ti regge, no? No, di banali. Di banali. No, no, come te le cose fa vedere? No, no, non tocca, se no. Non tocca. Esci da due, non tocca, se no. Mica che sono ladra, dicevo. No, non tocca, se no. Non tocca, se no. In più della borsetta, gatto, di tutto va a 30. Sei curioso a volte. C'è la mia nonna che si nasconde qua, allora il borsellino lo metteva dentro la busta di nylon tutta bella piegata e poi si lo pure a pittorra. Già, in pittorra, il cattivo si lo pure a... Scusando te, mi ha messo all'anche di quelle donne anziane, sotto quelle, tutte quelle vestaglie sottane che portavano un periodo. Rita! Mi ha tolto ridere. Non vi credo, Anto, non vi credo. Beh, la giudizia, a su, una volta a Sorso, una donna anziana, che guarda, minimo meno avrà avuto 80 anni allora, io ero ragazzino, avevo 16-14 anni, era andata a Sorso a trovare mio zio, fratello di mia madre. Beh, questa donna si teneva al portafoglio, ma non portafoglio, un pezzo di babbio va via, di giornale, 30 venne tutti di dinare, allora era in lire. L'ispicciolo ci aveva una tasca grande grande dentro la sottana, secondo me in mezzo alle mutande, due immaginati non avevano 80 anni, eh? Sollevava la sottana quando andava a pagare, gli prendeva i soldi a mettere le gambe. E lo sai come ti si chiama questa cosa? Sì, ma non ne aveva mutande. Ah, ma secondo me non ne aveva mutande. Come si chiama, Robert? La Monciglia. La Monciglia è brava, aveva una cosa liata di stoffa, attaccata e pigliava la dinara anche in mezzo. Guarda, io come mi avvicinavo le dicevo allora a mia madre, dicevo, ma come fa una cuba? Dice, come fa? Per non farsi rubare i soldi, per nasconderseli. Un Cristo Viaggio, Sant'Antonio, me. Era in uso la Monciglia, dice che era l'unico posto dove l'uomo metteva per ultimo le mani. Va via, gara, per dire no, eppure hanno vissuto in questo sistema, in questo stato, molti anziani. E oggi che possono vivere tranquillamente, no, ma questa mamma è guarda, una cosa allucinante. La mamma è via a pesce, è una cosa allucinante. E tu non stai più facendo già volontariato, l'ho sentito una volta che volevate rientrare. No, sai cosa che a me mi fa male, passare lì al Ciso a vedere tutto chiuso, quello mi fa male perché diciamo che io sono stato uno dei fondatori. Insieme a Giancarlo Agostino, quindi un po' mi fa male vederlo chiuso. Diciamo che c'è stato tutto un casino, un bel casino, che una volontaria che non se lo meritava secondo me, gli hanno dato il coso di comandare tipo Giancarlo, l'hanno fatta diventare maresciallo. Non ci ha saputo fare, ha fatto scappare a tutti, stava pagando la gente, cose che non si possono fare, insomma. Poi si è ritirato le chiavi dell'ambulanza, se c'è le chiavi lì, chi vuole operare veramente non può farlo, perché lì si è preso le chiavi. Adesso stanno mandando tutta Roma, perché noi dipendiamo dallo smom di Roma, mandano tutta Roma, perché a Roma non la conoscono che persona è, quindi... Bisogna mandarle a rinfrescare un po' le idee. È un bel casino, tutto chiuso. Io avrei voluto vedere l'ambulanza in giro, come le ho sempre viste, quello mi avrebbe fatto piacere, mi avrebbe appagato. Perché io il volontariato non l'ho fatto per avere la velocità, per accendere le sirene, ma l'ho fatto perché proprio lo sentivo. È come una vocazione, uno o va andare in chiesa perché ci crede oppure non ci va per niente, la stessa cosa è volontariato, per farlo come si deve. Non ho capito già, questo non lo sapevo, quindi è tutto chiuso. Ma tu non la puoi guidare l'ambulanza, non ce l'hai la patente, solo una pagina la puoi guidare. Come te la c'ero? Io c'ho la patente e da un bel muro per guidare l'ambulanza. Adesso non ci vuole più, comunque io quando ci voleva c'avevo anche il K. Ah, ce l'hai anche tu, non lo sapevo. Non lo sapevo, sapevo solo che vabbè, guidava Natalino, che c'ha tutte le abilitazioni. Ah, anche tu, quindi guidavi anche tu, non facevi come si dice, assistenza al malato, guidavi pure. Allora io avevo come specializzazione, prima di tutto ero capo squadra, e poi facevo l'autista e il baleniere, tutti e due. Quando c'era bisogno intervenivo anche io, c'avevo i corsi e tutto. Io a me non mi mancava nulla. Avevo fatto tutti i tipi di corsi, BLS, trauma, ne avevo quattro di primo soccorso, avevo fatto anche arrampicata quando facevamo a coso. Insomma, avevo fatto un po' di corsi, oltre a quello dell'ambulanza, anche altri tipi di corsi di sopravvivenza, di emergenza, facevamo delle simulazioni. Ho visto quella simulazione che hanno fatto da poco, internazionale o nazionale, adesso non mi ricordo. Sono rimasto un'ora bloccato a Valledoria, lì alla Foce, Vera Bubunari, Francesco, Vera Bogoriente, Vera Antonio, c'era anche il Cisimo lì di Porto Torres. Vedi, quello sta funzionando bene. E noi adesso la macchina antincendio l'abbiamo portata lì a Porto Torres. La nostra macchina antincendio nuova che abbiamo comprato, l'abbiamo portata a Porto Torres prima che ci prendano le chiavi anche di quello. E adesso quando si sistema la situazione rimane lì. Ma sto dicendo, questo è ambulante, non potete attivarvi vecchi, non so, tu, Natalino, altri, quelli che avete lavorato lì, che avete fondato, fatto e dato il cuore per questo cisimo qua a Sace, perché morto Giancarlo praticamente non si è più fatto niente lì, quindi come dici tu è un peccato, io l'avevo sempre parcheggiato lì di ambulante vicino a casa, no? Sai che di fronte. Però non ci ho pensato, vedo sempre il cancello chiuso, mentre stamattina era sempre aperto, quando rientravo da lavorare alle 10 e passavo da lì era sempre aperto, con i fari tutto illuminato, le ambulanze sempre pronte a partire, però praticamente non le stanno usando quelle ambulanze. No, non le stanno usando. Ma comunque la cosa si sbloccherà sicuramente. Quello che ho scritto io a un collega del CISO è che se si decide di prendere in mano la gestione, io sono il primo che la prendo, perché non lo voglio vedere fermo, ecco, quello lì che mi dà fastidio. Sono il primo che mi dà da fare e magari va per attivare la situazione, perché io praticamente me ne sono andato perché era un periodo che non andavo più, perché a casa anche mia moglie si stava un po' lamentando e così, quindi non ci stavo più andando, la verità. Mi hanno telefonato Giancarlo e mi ha detto: già, ma cosa fai? Torni oppure ci porti la divisa? No, vi porto la divisa, la giornata la puntiglia, perché c'era gente che lì era anni che non faceva servizio ed era sempre iscritto, veniva andando lì via zia e nessuno gli diceva nulla. Per cui mi ho portato la divisa e me ne sono andato. Però nel cuore mi è sempre rimasta la verità. Perché sono delle grosse emozioni. Vedi il mondo di notte, che a me piace molto, mi affascina tutto. Vedere uscire la notte mi piace un bel a me, sono un pipistrello. Via. Vabbè. Sono cose brutte comunque, vedere un'associazione morire così sono cose brutte, anche perché se volete tu assieme ad altri potete tranquillamente sopravvissuti da inserire, da fare, o gente che magari l'ha già fatto, non lo sta più facendo, si può tranquillamente esercitare e fare. Poi un po' tu già, se hai le capacità e la voglia di, assieme ad altri, di poterlo, di poter prendere in mano una situazione, io l'avrei fatto. Non lo posso fare perché io non ho nessuna abilitazione in quel campo e non la farei mai, perché a me moco prima di chi che sciocco tra i puttelli, e quindi non fa per me. Però dico, se uno ha la voglia di fare, è molto importante e interessante dare una mano al prossimo. Va bene. Rita, riprendi, c'era anche Roberto, mi fa. Sì, mi stavo ascoltando, poi ho messo anche benzina, mi sono perso un pezzo del discorso. Avete parlato in due, cosa hai detto lì? Ti chiedo l'ascolto. Ma decidi, non mendi. Stavo guardando la televisione. Ah, è vero che se c'hai il barracchino e la televisione davanti. Allora, mi chiede, no? Ti chiama pulizia il gabbo d'acquario? Ah, sì, no, tipo quello che ha fatto la voce. Rita. Sì. Ma l'acquario poi l'ho ripristinato l'avevi a proposito. Che cosa? L'acquario l'ho ripristinato l'avevi. Ma l'ho pulito, però non gli ho messo i pesci. No. E io a me ne sono fatti un mese quello di circa, me ne hanno mangiati gli altri pesci grandi, me ne sono fatti abbastanza. Ne avevo di diverse qualità, c'avevo lo sciacquo di Rossi, e Black Movies e anche di Bistis. No, non ne ho neanche uno, me ne devo comprare, devo andare a comprare. Che tra due bassi da te, vabbè che ogni volta si prende una barca di dinamico, di nabizzi, 200 euro, 300 euro. Sì, io ne prendo un paio, tanto poi mi muoiono, come sempre. No, vai, adesso è tutto pulito ed è pronto, poi ti ripeto, non ci sono andata a comprare. Sì, vabbè, comprati pesci facili da tenere. Ho detto che guarda, degli scalari che durano, se li sentirei gli scalari, solo scalari però, perché se usi solo scalari ti fanno anche i figli, ti diventano bambini, ben grandi. Ma li fanno i figli scalari, sì? Sì, se sei, devi creare l'acqua un po' acida e devi tenere, metti un po' di, un cucchiaino di sale ogni tanto li devi mettere. Vai, va bene. E io però la cosa del filtro, di modo che poi te la faccio girare bene l'acqua, capito? Oh, Orri, così quando si rimane la diatta è già salito. Allora, no, davvero. No, a me piace il beta, capito? I neon, quelli lì, e quelli anche quelli che ho detto tu, diciamo, quelli che hanno il becco a punti proprio su. Non il becco, il muso. Black Boris. Ce l'avevo io, ma avevo fatto 21 di pesci. Oh, Orri, ti sei abituato ai pappagalli, il becco, io. E allora? Ma una voliera già, mi già l'hanno, tu sento un pappagalli dentro, i boccolitti, per carità, che cosa bella, oh. Ah, ci picchia. Ma dimmi, a me, io acquario non ne farò mai più, perché è un casino, ci vuole un bel manutenzione, eccetera. Ce l'avevo quando ero lì nell'altra casa, ce l'avevo. Inizialmente, i primi anni, pure l'avevo tolto. Però, ad esempio, mio fratello c'è valgato, era all'altezza uomo, ed è come l'affare che fanno vedere a Striscia la Notizia, cioè acqua felissima, come cacchio, ecco la cosa. C'è entrato le zampe dentro il gatto e a uno si prendeva i pesci. E allora è senza coperchio. Senza coperchio lo lasciava lui, no? Poi alla fine gliel'ha messo, ha messo i pesci nuovi e ha messo il coperchio. Ci ha mangiato tutti di gocci. Ma il tuo gatto già non le fa niente, non ci sale di sopra. Sì, a volte sale, guarda, siccome ce l'ha mangiato in automatica, c'è il buco dove praticamente quando gira lì entra il mangime dentro, c'entra la testa lì, fa un bel ridere, entra la testa dentro, guarda, ma non adesso non lo sta facendo, lo faceva all'inizio, adesso non lo sta più facendo, non ho mai toccato nulla al gatto, non ha mai rotto nulla in casa. Se tu lo vedi come cammina sui mobili dove ci sono gli oggetti, ha un movimento tutto quanto particolare, delicato. Passa tra un oggetto e l'altro che sembra che gli cada da un momento all'altro e non gli cade mai niente. No, no, già, è troppo bello quel gatto, troppo bello lì. Se vedi il gatto di Gianni da su, visto il cane tuo quanto è grande, così è il gatto di Gianni, un baffo di cotone. Già lo stavo dicendo che è un bel bello, solo che io non mi piacciono le toccate. No, no, no, quello è bello, io ce l'avevo, solo che era un tipo diverso da quello, era un persiano incrociato con un gatto d'angola, era un bel peloso, un bel. Figurati che mangiava con la zampa, perché io quando mangiava ci metteva tutto il muso dentro, la sua ciotolina, e si sporcava il petto, no? Perché c'era il pelo talmente lungo che rientrava dentro. Allora le pezzavo il muso, e fino a quando ha capito che gli avevo rotto le palle, allora prendeva con la zampa e se lo cercava di avvicinare alla bocca per non sporcarsi. Era così bello, allucinante. L'ho regalato a un veterinario di Usini, perché quando è nata mia figlia, quando è nata, era già grande, mi pare. Quanti anni è che aveva l'aria? 8, 10 anni, più o meno, 8-10 anni, non mi ricordo. Le è stata scoperta praticamente che era, è stato scoperto che era allergica al pelo del cane e del gatto, e quindi l'ho dovuto dare, perché stava sempre starnutendo, allergia, l'ho dovuto dare, se no io oggi come oggi, mi piace troppo, non tanto il cane perché è impegnativo, bisogna portarlo qui e là, ma un gatto come quello che c'ha Gianni è una cosa troppo bella, perché è indipendente, capito? È indipendente, il gatto non rompe le scatole, sta tranquillamente al calduccio, vicino alla stufa, sta a casa, è troppo domestico il gatto, troppo bello. Sì, il gatto sì, è molto più del cane, il cane devi portarlo fuori, invece il gatto si arrangia nella sua toilette, se gli era amico. No, io perché sono anche allergica, quindi mi piace, la verità, mi piace, poi con i bambini adesso non meglio di no. E vabbè, ma tu sei in campagna, il cane non c'è bisogno di portare in giro, gli apri la porta, la faccio dei fuori, va a fare bisogno. Quello sì, però ti ripeto, mi piace perché mia sorella lo stesso ci ha sempre avuto quando eravamo a casa, però non lo so, per neanche per i bambini. Eppure è abbastanza pulito perché se lo lavi, li tieni, è abbastanza pulito, però dipende. E ti è abituato, educato. Non tocca tende, non tocca mobili, è un gatto che è stato educato da quando era piccolo. Io mi sono molto documentato sui gatti, ho comprato cassette, mi sono documentato con libri e roba del genere, e ho seguito i consigli che davano, le fatture eccetera eccetera. Non sempre educato all'inizio, sì, andava a tirarsi sulle tende, cose, basta dirgli un no secco col dito puntato, senza picchiarlo, perché se lo picchi il gatto non ottiene nulla, ti fai gli spiriti. Beh, barra agricola. Era una iatta gentile. E barra agricola invece in campagna. Niente, c'è un cane. Sì, ma i pappagalli sono nati tutti lì. Cioè fanno il nido proprio nel... Cosa c'è? Un albero al centro della voliera? No, niente. No, c'hanno le casette loro e tutti fanno scopano. Tu cazzo mangi bene, dovete dare a questi, quanti ne avete? Saranno buoni, una cinquantina, forse anche di più. Com'è questa ciala tettuia? Ehi, è una voliera di quelle grandi. Diglielo fra come l'ho presi al volo. Entrata, ma una voliera ci sta lì dentro, mi tranquilla, ti puoi spostare dentro, molto grande, molto bella. Ma non siamo andati a prendere, siamo andati a prenderne due con Natalino da poco. Ma è entrata con un gambaraggio dentro, un affarino quello per piccolino per pulire l'acqua dei pesci. A uno, mi nomi il maschio, tu, l'oggettino. vicino in capo e a Trento. Beh, anche per farfalla. E allora? Al volo li ho presi. Al volo li pigliava. E non c'ero mai entrata, perché quello ormai io ce l'avevo, era sempre su, poi l'ho data a mia suocera, e ce la siete tenuti lei. Prima era la tua la moglie. Ehia, io stavo più piccolina, ne avevo tanti, lo stesso, erano tanti, poi come sono rimasta in attesa ho iniziato a abbandonarli, mi mettevo a mangiare una volta al mese, io davo i soldi e andavo da soli. No, dai, mi sono stufata, quindi l'ho lasciata lì, lì la metti. Stefano ha procurato quella voliera grande e gli hanno messo lì. E cosa aveva a mangiare sempre? Cosa? Mangime e basta. Sì, il mangime. Poi se c'è anche la verdura, la mangiavano spesso la lattuga, pane duro, dipende. Insomma, vivono bene. Io ne ho visto una che c'aveva un albero piantato al centro. Secco morto, là. Piantato al centro. C'aveva invece che il pappagallo di diamantini. Diamantini, ma un bel però. E poco sono belli. Diamantini. E avanti. E Luigi! Mamma mia, barra agricola, eh. C'è un segnalone qua, chi è? Agricola mi pare. Ma è 9.20 qua, 9.30, chi è che vuole entrare? A Luigi, a chi è? Poi, mia, a Luca, me. Non c'è Gianluigi, no? E non voglio la agricola! Ah? La agricola, Arando! Arando stai? Via! Vai già rientrare a bicca tu? Ehia, Arando sto! Vabbè, pigliate la lì. Buonasera a tutti. Uno io, grande. Dove è Franco o Teresa? Sono andati bene, là. Grande quanto? Quanto peserà? 4,20 l'ho preso io. Ho preso, la totale, due yuzuri. Basta pigliare che 5 anni di mano. E come hai fatto a perdere lui? Cagliato. Ma sopra il muretto l'ha fatto? Quel bar lì, dove sta Franco? Lì è una rottura, troppa roba c'è. Allora, peccato, peccato. Già va bene, già va bene. Freddo c'era. Aspetta, come sto qua? Freddo, diciamo, vabbè, alle 7, no? 7:30, poi stava già iniziando a rinfrescare. Torri di Angelo, l'ha visto già? Sì. Stavano scendendo, come ha detto che stavano scendendo lì? Sì, erano lì, erano con noi. Ma si stendono gli occhi. Oh. Ma, ciao, spera un attimo. Sì, ero giù. Mi ho dato una totalata lì, l'ho dato scendendo a mezzanotte. Infatti ho detto che non doveva lavorare domani, che andava a tentarsi. Già lo so, già non doveva lavorare domani. Mi sono spostato praticamente dall'inizio, lì. E l'ho preso lì. Cazzo di tubo, cagliato, io vaffanculo. Poi c'era un tipo, mica ci ha attaccato, vai, cazzo. La cane Teresa. Se recupera quella bisanti. C'era una grandetta, eh. E ma stavo già iniziando a girare il pesce serra. Oh, come di fede, no? Ma che? Una volta lui con Teresa e Franco, ma lo sai quanto era grande? Grande! Minimo sarà stato 60-70 cm, questo calamaro gigante. Ce l'aveva già su Teresa a bordo, Franco andando a dare una mano, battirarlo, ha dato un salto, il pesce serra. Cioè, ha dato un salto lì proprio vicino alle rocce ha dato un brinco al volo, tum, e ne l'ha mangiato la metà. Sì, è maledetto, cazzo, è maledetto. Poi c'erano due tipi più avanti di me. Prima l'ha preso un tipo grandetto, sarà stato mezzo chilo. Poi l'altro, dopo, sempre venendo verso la parte mia, cazzo, io manco una duccata, io te l'avrei bigliato due metri di caravani. Vuol dire lui che tu stavi rullando troppo veloce. Ragazzi, negativo, negativo qua. Non problema niente, nulla, nulla. Allora mi sono, Franco si è spostato e mi sono buttato subito da Franco. Era giubilato. Dipende, dipende dal posto. Dipende, io quando vado, proprio l'unica pesca che mi piace perché ti scegli e stai piano piano, piano piano, piano piano, andendo, andendo. Lui vede il pesce che si muove, tanci, si cura in alto e tu l'agganci. È una bella pesca, eh. Una bella pesca. L'unico problema è che è costosa per le tottanare, perché se perdi le tottanare sono colpi, eh. Quello è classe, e vabbè, comunque già. Già c'è il divertimento, dai, è assicurato anche. Ah sì, una serata. Aspetta, arrivi un orellino che se la posi. Ehi, vai qua! C'è garage. Sono entrato, a me in Baria Edo, e l'ha detto, ma scusa un attimino, ciao, ma ancora lavorando sta. Guarda che ti addormenti sul trattore, invece l'ha detto. Era fuoco. Carità, tutto roccia qua. Ciao Rita, avanti Rita, riprendi Rita. Io. Ciao Luca, un pescato è allora. Io a Rita, hai pescato, hai pescato, va. Ci ho rimesso, si può dire. Uiaia, per carità. E lì, la, con la pesca lì, è un casino. Mi dice per due anni vaffanculo. Inizia a perdere tottanare. Allora un tipo, abbiamo trovato un tipo, quando è? Una settimana scorsa mi sento, stavo pescando lì. Dice un giorno è entrato, si è messo la muta, dice no, si sono fatto 50 tottanari in Chirisotto. Ho pescato quelle vostre. E io ne ho perso due. No, tre ne ho perso in tutto. Tre. Fanculo, ma cosa c'è sotto? Di tutto? Cosa c'è? Ruccia lì, immondezza. E vabbè, pazienza. Poi Gianni, neanche una seppia, nulla. E invece Franco mi ha detto che stamattina li aveva presi, ha preso una seppia e dice che uno ha pigliato un calamaro da 4 kg e passa. E un tipo, un ex poliziotto, via. Hai visto quello che ha preso una... come si chiama? Con la sinistra. Con la? Con la sinistra, come si chiama? Non si chiama, non mi ricordo, adesso mi viene in mente. Con la P? No, la C. La mano. No, il paese che sei figlia a quanto so. Ah, quanto si è finto? A Cernia. No, è nato il figlio. A Cernia. Sì, sì, giornale era. Gappa, gappa. Ma non l'ho preso... mica non l'ho preso a camera fresca. No. Sì. Yeah, yeah. Quanto era lui? 7 kg mi sembra, forse più anche. Ma con l'ottore sì. Un ragazzo col padre. La cena è buona, maledetta. Buono, pesce buono. Pesce buono, buono. Allora siamo vendere un frizz, eh? Contento la Franco? No, è un denti c'era, non una cena. Non è un denti. È un denti c'era, non era una cena. Cosa? Bah, via. Ah, sono anche così a divertirci, cosa? Già va bene. Anche tu è ghiacciato, anche il muscolo è bucato. Oh, esce che non mangia mica che cosa, non mangia male, devo uscire in una gara di fare l'appello. Già, c'è qualcosa a cucame? No, io mi metto a sbucciarmi una mela, perché mangio una mela e basta, e boh. E tu metti quella C o R, invece con la D. Con la D, poi ti ho pensato e tu mi sa che non era quella C, con la D. Cappa dell'oggero, va bene, va bene. Quindi è contento, fratello? No, che ti giri a Natale, dobbiamo fare il calamare ripieni, tu. Eia, c'è problema. Cazzo, ha tirato e pruzzata. Perché non l'ho portato su io, mi ha tirato la San Franco. Cazzo, mi spruzzata di cose che ha tirato, di... ma... l'inchiostro, micidiale. Ehi, calamaro, prova a prendere la seppia. Mi ricordo una volta con Gianni Natalino a poco Torres al posto, che io ancora non l'avevo mai fatta quella pesca, ma l'ha fatta bene loro. e mi si è attaccata, io non riuscivo a, mi ero tutto ingredulente perché c'era una canettina proprio di chi ci stracco baratto, che avevo preso giusto per andare con loro a divertirmi, quella che, non quella che usi tu, che stavi usando tu, quella è quella buona, l'altra, quella che sta rugginosa in garage, quella lì. Beh, come gliel'ha tirato su, mi ha avuto un'infrustata, ma lo sai come mi ha fatto i pantaloni, la seppia, ha un'infilingata di un metro. Maledetta, non so. E va che calamaro non scherzare, maledetto anche quello, ha fatto la spruzzata, Franco, arriva a rubire in piedi a Franco. E cioè ieri quando è rientrato, perché è andato anche ieri, ci siamo sentiti e stava rientrando. Allora te invece andare a casa tua, passa qua, mangiate una cosa qui e rimaniamo qui. È passato, allora mentira, va via, rimani niente, tutti niente, c'è tutto lavato, cambiato qua, perché lo stesso gli è successo la stessa cosa, perché come vai a attaccarlo dall'ancoretta ti cubri di truzzata, è malaretto, eh. Infatti molta gente sai cosa fa, c'ha il secchio già pronto, e come lo tira su, direttamente attaccato all'ancoretta, in lontananza, lo appoggia nel secchio e lo fa attaccare da solo. Guarda, secondo me è a fortuna lì, è a fortuna, non è... poi dipende, ci sono quelli che fanno... cioè un tipo che dava gli strappi con la canna da pesca, lanciava, faceva scendere, recuperava un po' e si bloccava, e poi dava gli strappi e recuperava, poi si bloccava, e ne ha portato su mezzo chilo sarà stato più o meno, quello. Cazzo, poi me lo sono andato più avanti di loro, lancio, la faccio scendere, però piano la recuperare incagliata. No. Allora ho fatto quel lavoro con la pietra, il pezzo della lenza, con come si chiama? Col dove metti il piombo, la girella, l'ho fatta scendere per se mai si staccava la tottanara. Ma di me devi scalzare un tutto. Piede del culo. E poi quella buona, quella vecchia, cioè quella che non è di marca, quella costava poco, diciamo è sempre, ma non ha mai ragazzi, la usura più bassa. Non c'è quanto ne abbiamo perso mi con Gian, il sugar, non per Gianni, quindi saranno una benzina che io ho canato. Perché io la pulizia, in esperienza, lanciavo come andare di una terra rocca ma pesce. Come tiravo, mi agganciavo a cavi, roba che c'è sotto, perché l'ancoretta lo sai, non lavora a fondo, capito? E quindi, vabbè, pazienza, è tutta un'esperienza anche quella, è tutta un'esperienza. No, siamo letto Franco stamattina, che è andato, solo che io non voglio rischiare ancora, sono in malattia e voglio mettermi in sesto, capito? Adesso domani lo stesso, tutta la settimana sono a casa. Tutta la settimana, così mi rilascio un po' e vediamo, ma insomma la mattina vado per la mia auto, vado lì via Montello, mi prendo la tinta bianca, piano piano mi faccio qualche cosettina che c'è da fare e via. Vabbè, vado a mangiarmi una mela, Rita riprendi, guarda che c'è anche Antonio, non so se lo senti tu, riprendi Rita. Sì, non lo so se lo sento, però non lo sento, ciao Antonio. Se non mi sente Rita, allora mica già mi sente. Ehi, ciao tu. Aspetta un attimino. Ecco, la vuol bip. Sì, ti ascolto tu. Ma insomma ti ascolto, dai. E ma vuol do io? Non lo so, no, se mi sta ascoltando. Ti sento tu. Senti. E io. E anche io a te, basta ma ti sento. E anche io, basta ma ti sento. Non basso anch'io. Cosa? Sono basso. E io, molto. Mi radio molto. E io non riesco a capirti molto bene, però già ti sento, va. Va bene. Tonellino non è entrato. Adesso. Poco fa. Sì, poco fa, prima di andare a pescare. A Pasquale se ne è sceso? Sì, a Pasquale se ne andava a pescare. scena, ma mi sono picchiata con questa cosa. Perché mamma neanche la testa quanto stavo ridendo, quanto è guasto, fatta bobone. Ma che ha fatto? A bobone. Papà. Gianni l'ha preso per lui. Uguale. Per Luigi Vulcano, ma che sei Luigi? A che, a cosa? A Torellino? Ehi, a sempre lui, Devo fare anche una ecco. La messa a manetta deve essere lei. Ah, scende. Guarda, ti fa morire, ma che scende. Si chiede da sul muro la voce. Angela la c'è garata. Guarda, è chiaro. È chiaro qua, amico. È bella guardia. Via, via. Per carità. Già va bene, già va bene. Sì, stava già iniziando a rinfrescare giù. E tra i bambini ghiacciati. Sono due ghiaccioli. Infatti io pensavo che erano le 7:30. Quasi le 8, dai. Che se no erano. Perché la nave parte alle 8:30, mi sembra. Infatti in Maria se ne parte alle 7:30. E vabbè, comunque un po', dai. Qualcosa già hanno preso giù. Poco, ma già hanno preso. E anch'io chiudo, dai, perché non ho giugana. C'ho una giro mal di gola anche. Ci sentiamo domani, ciao a tutti. Ciao anche a Claudio, ciao Antonio, ciao Rita, ciao Gianni. Tutta domani, ciao. Ciao, ciao Rita, ciao Antonio. Io aspetto se rientra Gianni, già sono qua. Ciao, ci sentiamo domani mattina, intanto sono a casa. K del Rosmetro, va bene. Ciao a tutti e buonanotte K. Ma stai chiudendo qua? Rimango in ascolto, Anto, mi guardo un po' il TV perché qui mi sto mangiando una mela e poi mi devo prendere una pastiglia. Già sono qua comunque, arrivederci, ci sentiamo tra un attimino. Già mi è andato a mangiare, è andato. Dai, adesso sono qua comunque, se non vuoi già riprendo dopo, dai. Ehi, rilassati un pochino, scaldati il letto. Andato in letto, che è freddo. Hai visto l'Inter, l'ha fatto via, sembra sensitivo, eh. Un 2-0 secco la Fiorentina, uno più bello dell'altro, il gol. Te l'ho detto, caro, ma ha vinto. Sì, ma è a 31 è andata l'Inter, 28 la Roma e 26 la Juve, è terza da sola adesso. Vabbè, ma l'Inter non ce n'è, ma il quadro ha fatto due gol di Schumacher, che si cade la Fiorentina a Firenze. E adesso guardo, aspetta un attimino, il Cagliari, boh. Qua c'è Torino, lasciamo vedere, Sampdoria, Cassazione 3-0 ha vinto. Atalanta Napoli 5-1, Cagliari pareggiato, Zuccheri ha buttato il numero in Maria. L'Inter ha vinto, il Parma ha vinto, la Roma ha vinto, Lazio ha pareggiato, Lazio Siena. Il Genoa, il Torino sta pareggiando, lascia vedere la Torre cosa ha fatto. Vediamo un po'. Guarda la Torre, che non ho guardato, l'Atalanta ha segnato anche l'Angela, due gol. La Torre si è controllato, sta perdendo 1-0, lo vedete? Adesso una zero ha perso. Come in casa? Con il gol crema. Chi è? Buonasera. Ciao Domenico Tazza, è bello lui. Buonasera. Ciao Tarzanetto. Ciao Claudio, buonasera, ben sentiti a tutti. Perché c'è tutto innescato? Qua dentro fa freddo, capito? È fino a scaldare i motori. Ah, così è, scalda. Figlio della giungla, dove stai andando? E dove che vuoi che vada, Claudio, lo sai? Io sempre al solito posto vado. Vale, stai facendo il mazzone, ah? Vale, stai facendo il mazzone come è? Altro che vecchi tempi. Mattoni, lasciamo fare in questi tempi, mattoni non si fanno più, Claudio, abbiamo sbagliato periodo. Gaffa, ti dovevo telefonare in questi giorni, avevo qualcosa da dirti, poi invece ho risolto diversamente, dai. Però poi già ci sentiamo che ti devo dire alcune cose. Va bene, avanti Luca, per saluti a Domenico, dai. Ehi, ciao Domenico. Come stanno? Ho orbitato. Ehi, Luca, sempre lì a Olbia. A Olbia andiamo, ammazziamo e torniamo. Benevenda, benevenda. Ok. Uiaia. Freschetto c'è stanotte, eh? 7 gradi ci sono. Quanto? Uiaia. E io giù a Portottore, si fanno un paio di lanci, c'era freddo. Minchia, 7 gradi ci sono, e voi a di bicchieri? Ma solo giù quanti gradi c'erano, e la scuola c'erano non più di 10 gradi, dai. Però vedi ben coperto tu, e c'ho un freddo alle gambe, qua. Non ho messo il pigiama grosso sotto, vaffanculo, avevo i bei ghiacciati. Ci vuole una tuta come quella che c'ha Franco, c'ho io, quella della Laiva, quella andare a calamare micidiale, di buono, un pantalone sotto, una camicia e tiri su, e vamo, se chi non entra aria. Va bene, dai, io mi stavo allontanando. Ciao Domenico, ciao Antonio, ciao Arrizza, ciao Luca, ci sentiamo più tardi, se coincide, siamo domani mattina. E ciao Domenico, a te figlio della grande giungla. Comedia, ci sentiamo. Ciao, avanti loro. E anche io ci metto in stand by qua, dai. Ci sentiamo dove? Buon lavoro. Alla prossima, ciao. Ciao. Ci sentiamo più tardi, va, se coincide, se no domani un altro giorno. Ciao a tu. Dove tu stai chiudendo? Ma sono qua in stand by, dai. Ia, fai. Ma con te non sto parlando, c'ho pure l'alimentatore freddo. Ah? C'ho l'alimentatore freddo, perché non sto parlando. Ebbene, non si può detto. Ebbene, non c'è assorbimento, è logico. E quindi ci fotte chiaro. Forte chiaro. Pagava. E sempre con l'apparecchio lì, forte chiaro. Ehi, ai. No, ci sentiamo dopo a tu, dai, ci ne giugana. Non c'è, sono domani. Ia, va bene. Se coincide ci sentiamo dopo, se no fra un po' guarda e ti dico. Sì, aspettiamo già le 7, dai, sono dopo. Bene, che ore sono? Solo le 10 qualcosa. E allora già potrebbe andare bene, va. Va bene. Rita, ci sei, mi senti? Rita ha chiuso, la sentiamo dopo. Ha chiuso Rita. Capla. Guarda, mi faccio già la Lucia. È un agnone. 7 pecore, 8 pecore, 9 pecore, 10 pecore. Lava. Come è le bici? Sto contando le pecore. Ah, stai contando le pecore. Ho venuto in televisione. Senti, si gaga, si sta zitto. Beh, tanti anni ti nasce. No, ci sono io. Superstite. Lo sto ascoltando. E sono tutti andati. Oh, sì, è lui che mi ascolto. Dunque, voglio fare cosa, ecco che chiamava dopo. Stavo parlando di Lombrosa. Lombrosa. Lombrosa. Sì, questa volta si chiama, questa volta. Ma a casa si l'abbandoni tutti io. Ma non mi piace a me, mi sembra mica. Anche Rita se n'è andata. Anche Rita se n'è andata. Tutti a drummi, io non la giugare. Ma è gamma di drummi? Quando riposo io sono un grillo. Ma non so che domani non lavoro, no? Dovrei non lavorare di sera. Ah, così. Ma di mangiare sì. Di mangiare non ne va bene mai. E così che quello che ti perdi stanotte magari domani magari come un po' sentito lo riacquisto domani sera se non apriamo, se apriamo se lavoro anch'io domani non siamo, lo dico domani sera se apriamo lavoro anch'io perché in questo periodo apriamo domenica, lunedì e lavoro anch'io. Ma il senso di lunedì si apre a sé. Ma io c'ho il riposo lunedì, capito? Ma in questo periodo, il periodo natalizio, lavoro domenica e lunedì pure, il giorno di riposo, non ho riposi là praticamente. Sempre lavorare, mamma. Già c'è anche la tua riposo, no? È dura. Vabbè. Che vieni già sempre, Antonio. Ma so che tante volte hai bisogno di una mano, non te ne dati, e allora ti stacchi di birra. Ok. Anche io ho fatto quella esperienza brutta. Ma non come in tavanna, ma anni prima che c'era un po' di travaglio. Ma sempre lì hai lavorato, sempre a popolare. Sempre. Hai cominciato da piccola, no? Da piccolo sì, okay. Che mi chiamano un po'. Cosa hai fatto? La terza media? Ho fatto la terza media, poi ho fatto la prima superiore, ma la prima superiore mi sono andato. E Biasera? Ma non ho mandato a più. Dove le fatte le superiori? Al tennis, ho già provato. Lo so. Se non sei portato per lo studio non conviene manco far spendere i soldi a babbo per i libri, per tutto. No, i miei figli sono, cioè mia figlia perlomeno è molto brava a scuola e sicuramente la manderemo anche all'università perché è molto brava, però Marcolino adesso mi sta cominciando, adesso sa già leggere e scrivere e in prima per l'entrata sapeva già scrivere. Se ti è portata magari tua figlia Marcolino c'è ancora un pochino da vedere, no? Vabbè, sta appena iniziando, speriamo che sia anche lui così perché così non ci dà problemi, ma a volte la mattina quando lo svegli dice no oggi mi faccio figlia, non ho voglia, sono stanco. A lui dovrebbe giugare ancora, non ha capito che bisogna crescere, diciamo che a lui piace ancora giocare alla PlayStation, tutto qua, è fissato con Dragon Ball, con Gishin, cartoni animati strani, come ti diciamo l'altro, Strike, Gishu, Gidar. Ancora nel mondo del cartone animato. La musica, la verità, io ho preso ancora, mai la musica. No. A lui piacciono molto, a lui piace che c'è digitale, che c'è quel programma che vede, ci sono sempre cartoni animati, infatti c'è. Per Papa. Ma non lo so se sta ascoltando. Mi dovi, vedi che chi ve, allora. Ecco cosa stai facendo, vado al televisore. ho cercato di guardare il televisore. Ti sei drummato? No, non sto dormendo, non ne ho sonno. Però la voce c'era, e lo sai cosa mi ha fatto la sigaretta adesso? Mi ha fatto un capogiro allucinante. Mi ha fatto la sigaretta, caro, ti può mancare tu. Ti ha dato un gruppo. Mi hai tirato troppo. L'ultima tirata che ho fatto così in fretta, e mi ha gribbato. Perché la volevo buttare, l'ho fatto tirate così furti, tagli al cappuccino. Infatti mi sono fatto di colpo, mia moglie mi ha detto cosa c'hai? Oh, non mi sento bene, mi sono siediti. Mi sono seduto e poi un po' mi è passato. Ho risolto quel problema dell'amplificatore perché non l'ho trovato, perché c'ha più entrate da una parte, ne ha due che escono dal piatto e quattro che entrano nel mixer là. Allora vedi che qualcosa c'ho ragione io. Sì, dicevo, ma non è che ha più, e tu mi hai detto di no. Sì, sì, mi ricordavo due, invece sono quattro e due. Ma io avevo supposto, io me l'ero immaginata che era così, perché non poteva essere, quei mixerini così li conosco bene, e c'erano tutte quelle cose così, che bene o male sono quasi tutti una somiglianza. Ci posso mettere al posto del mixer per vedere se funziona il piatto? Cosa hai detto? Al posto del mixer cosa ci potrei mettere per vedere se funziona il piatto? Un amplificatore. E un amplificatore è un bel mando. Ci sono anche amplificatori piccoli. Se non lo vuoi mando bisogna pure minore. Oh. Non ce l'hai, oppure puoi usare anche il box, come si chiama, il 2 più 1 non ne hai, o 5 più 1? No. Non ne hai? No, 5 più 1 sarebbe. È quello che si collega al DVD, che ha 5 colonnine, il box centrale. Allora, non ci ho mai fatto caso. Uno di quelli lo puoi provare su uno di questi. Perché mi ha detto no, ma io dove ho comprato l'amplificatore del piatto, mi ha detto che avevo bisogno o di un amplificatore o di un mixer per fare l'amplificatore al piatto, capito? Sì, ma come amplificatore al piatto oggi esistono i 2 più 1, i 2 più 1 omotica terza, come si chiamano loro, no? E puoi farne l'uscita, cioè l'uscita del piatto, dell'audio, la puoi collegare dietro sull'ingresso audio del 2 più 1 e ti funziona da amplificatore. E ti assicuro che si sente anche bene. E di uscita ne ha un bel quello lì, però su AUX lo devo collegare. Su AUX, cioè? Ma questo che ti sto dicendo io? È un amplificatore. Un amplificatore dipende che tipo di amplificatore è. C'è diverse uscite, secondo che amplificatore bisogna vedere la qualità, se no ci sono anche quegli amplificatori piccolini per questi cosi qua, che sono sottili, piatti, hanno anche 100-150 watt, che vanno benissimo, 80 watt ce ne sono anche, e vanno molto bene. C'è l'uscita delle casse e l'ingresso di audio. Praticamente non è che me ne intendo più di tanto. A me mi ha detto fare così e così, ho fatto, andava benissimo col mixer. Però l'ho spostato, adesso non riesco più a... Ho paura di aver collegato male le casse. Le casse funzionano però col CD, con la radio, con tutto funziona, solo che col coso, col piano. Allora non è risolto? No, no. Mi pare di aver compreso che aveva risolto. No, aspetta, non ho risolto con quel problema lì. Allora bisognerebbe, il cavo non sei riuscito a sostituirlo, no? No, perché non ne avevo, che uscivano a due vie e entravano a quattro, capito? Ne avevo che entravano, c'erano tre parti, tre da una parte e tre dall'altra, e non andavano bene. Allora, anche dovresti aver comprato quel capo, se non ne hai. Io prima farei la spesa per il capo, vedere prima, perché qui lì di solito sono un po', soprattutto nelle giunture, sono un po' così, danno un po', hanno un filo dentro che quelli che fanno così sono addirittura molto delicati, spesso lo volentieri, capito? Se non ne hai a provarmi, no? Da parte in parte a vedere se hanno, se c'è l'opportunità. Sì che c'era il tester, c'è quello elettronico, quello digitale. Potresti provare con quello a vedere se hanno continuità, capito? Infatti lo provo adesso, a vedere. Mi lunga ve lo provo col tester, non mi ha dato un'idea. L'unica cosa è provarlo col tester, se il tester ti dice la verità. Se non c'è continuità, te lo dice. E se il cavo ti dà la continuità, comunque quando lo stai misurando anche il cavo tenta di muoverlo, anche tenta di muoverlo, perché può darti anche falsità, col tester può darti falsità, che magari così te le può dare, mentre invece quando è tensione di uscita non ti dà il distacco, capito? Infatti, è quello che c'è. Ma adesso lo guardo con calma quando c'è più pazienza, perché mi ha fatto più nervoso e si era bella luce. Ho detto, ah, adesso devo contare questa, poi lo vediamo con calma. Sì, ho già, quelle sono cose da guardare con calma, però le cose così, non è che uno si deve mettere il nervosismo, la calma, perché come di voi se uno si pone con nervoso, da voi non riesce a vedere quello che c'è da vedere, capite? Invece, dice con la calma, controlli tutto, visto che c'è anche il test e ti dice la verità. Infatti, non è che lo uso più di tanto, però mi piace sentire quei dischi in vinile, me l'avevo comprato per quello, il piatto. Ho preso questo Sony professionale, di quelli da DJ, di quelli che si illumina il disco quando gira, capito? Come quello Technics, dai. E te li conosco, ma adesso sono belli già. A me sarebbe piaciuto avere i dischi, ma non c'ho più niente di dischi, tutto buttato via e poi fatto male, non fare almeno la coppia sui CD. Io già ogni tanto mi registro le cassette, avevo fatto una cassetta a un amico che voleva in America, mi piacciono molto, e avevo registrato una cassetta. È uscita bene, veramente di lusso. E invece io non ho più niente, né cassette, né vinile, nulla, tutto CD qua. Io ho CD, vinile, 45 giri, e ho anche quei 45 giri di quelli grandi come il 33. Ehi, di cose, di piatti già ce l'ho anch'io, ma non sono più utilizzati, però non li uso più. Niente di importante, mi è rimasto due cubi, mi sono rimasti, no? di quelle serioni a cubo. Io ce l'ho a cubo lo stesso, io ce l'ho il cubo della Panasonic, ma esce con 200 watt, c'ha anche i super woofer, c'è tutto quanto, esce bene, si sente benissimo. No, già vanno bene lo stesso, sì, questi cubi così già vanno bene, ma prima anni fa non avevo quello proprio mobile, tutto ben fatto, capito? Amplificatore, insomma tutto ben messo, era comparti, no? e andava bene, quelli andavano bene, anche questi qua si sì, vanno bene, non è che sono, però quello là era un impianto hi-fi proprio come si deve, ecco. E mio cognato ci aveva amplificatore, ma il piatto della Technis, il coso del sintonizzatore della Pioneer aveva molto bene, poi ci aveva messo anche il CD, ci aveva messo il CD della Sony mi pare, ma toccava il casamare, le casse erano jazz. Il mio aveva soltanto il piatto della Technis, l'altro era tutto che vuote. E anche che vuote andava bene, è una buona marca. Tutto digitale era, Forse era anche uno tra i primi che era tutto digitale, non c'era niente di rotelline. No, mio cognato c'erano quelli proprio vecchia era, con le rotelline, eccetera, eccetera. Era bello comunque, c'erano gli sorsori che si illuminavano. C'aveva l'amplificatore, pesava 25 kg. Per un gomito. Che fine ha fatto? Stampato. Ehi, questa roba è cambiata con cose nuove, capito? Sempre di più tecnologia, quindi roba che ho regalato, non è proprio fatto. Anche perché poi, tanto è così, e c'è una volta che ti arriva il quadro che fai, tanto vai, non fa, e lo dai, capito? Anch'io ne avevo venduto uno, era Telefunken, che avevo comprato un impianto così come stai dicendo tu per la Telefunken. Io ne ho avuto uno di quelli a cupo, che era piccolissimo, ma era una bomba, della Philips, era una bomba. Prova a dire Antonio che fine l'ha fatto vaga, l'ha incendiato la catena minore. L'ha incendiato. Mi l'avevo incendiato, però. Te lo spiego io. Praticamente io credo che funzionasse di più, sarebbe attaccato lui, siccome c'era un'uscita di a 12 volt dietro, era campendico già con la 220. Io ci ho attaccato il dito 12 volte, cazzo tutto canto, cazzo. Qua c'aveva questo cubo qua che era, qua c'aveva un'amplificazione, e c'aveva centro, c'aveva una specie di, cioè un quadro, cioè, che quando tu accendevi si illuminava, si faceva tipo l'autostrada, no? Con le strisce in mezzo e i led si muovevano in mezzo al tempo di musica. Cazzo, era una cosa bestiale. È come il mio come accende si scrive allo e qui appare questa porta da che stai dicendo. Cazzo, era una cosa, quindi Sergio ha pigliato per gli esperimenti la pigliata minore e me l'ha bruciato, ma c'aveva un timbro di cosa quella radio, cazzo, che era fenomenale, cazzo, una cosa. Per essere una cosa era matodontico, ma aveva un audio bestiale. Se sei di piccata? Mi dispiace tomba e comunque anche a me. C'è il Panasonic che va benissimo, molto molto bene si sente. Però come l'ho spostato? Un tecciato nell'angolo dove era prima, che stavo meglio a manovrare tutto. Adesso c'è il tavolo vicino. Anch'io sono così, a me quando sposto la roba fuori da dove tecnicamente e mentalmente deve andare qua fuori. Però già io sono fatto così e se la musica la devo ascoltare bene, poi io anche professionalmente ero dedicata a questa cosa e quindi se io devo ascoltare la musica la voglio ascoltare bene, se no io quelle radioline le odio, lo sai, cazzo, quelle che hanno quell'audio brutto, cazzo, mamma mia. Eppure ne ho comprato una dai cinesi, devi sentire che audio c'ha, sembra stereo, una radiolina di quelle che hai citato. sa bene, si sente benissimo, a parte che c'è un medio di frequenza, di quella che c'è un medio di frequenza, è una radiolina piccola e fino a fine, ma si sente in un modo, guarda, allucinante. Ma guarda, a me deve essere proprio un suono, credo di dire stereo, è troppo poco, cioè deve avere il suono, deve essere pulito, non vedo niente da fare, io devo sentire il basso, devo sentire gli effetti della musica, non sono fatto così, non mi piace, no, non ci sta a fare, magari anche non mi piace per un po' sia alto volume, anche a basso volume, però deve essere quel volume dove la senti bene, capito? Deve essere pulita e devi sentire un suono stereo accettabile, no? Perché le cose che racchiate, io vedo ieri che fa senza far no, non c'è nulla, si può stare la mia notte, fare la regolazione e fare la radio di grande cinesi. Lo so. Sì, c'è un po' di gente così. Tu quando c'è 2000 watt mi hai detto quanto? Viene con noi, cioè, va la radio stereo da 1000 una notte e non fa la regolazione che... Come hai detto tu, quella radiolina dei cinesi che hai preso tu funziona bene. Sì. È vero, se non sai usare... Ma dipende anche dalla canzone che ascolti, perché me ne sono reso conto. Lui ha regolato bene, secondo che canzone ascolti bisogna di un'altra regolazione. Ma già, ma se tu c'hai uno stereo come ci vede, e poi ti fai delle regolazioni che sembra appunto queste radioline, è inutile che abbia un impianto del genere, cioè io faccio così, no? Se uno ha un impianto come si deve, anche l'orecchio deve essere come si deve, se poi non c'è neanche l'orecchio come si deve, è tutto inutile, vai prima appunto a comprarti una cosa del genere, cioè perlomeno come la penso io e poi non so. Il mio impianto ha spaccato due subwoofer, me l'ha piazzati e spaccati, cioè che secondo lui si sono bucati con la canna da pesca, tu non sei di zente, che le canne da pesca le mettevo sopra, non potevo mai bucare. Fatto sta che poi l'ha aperto dentro e ha detto no, questo che è bucato dalla pressione del coso. Una volta mi stava vibrando, ragazzi, c'era la busta dentro, se l'aveva succhiato, una busta di plastica. Una volta avevo un amplificatore, quegli amplificatori per... Ciao, buonanotte. E... cioè era stato modificato per ascoltare bene l'audio da un altro stereo. Cazzo, l'avevo attaccato qua a casa. Cioè, sul palazzo si tremava. Sempre tu sei sul fare esperimenti. Cazzo, ma era una cosa bestiale, che proprio come lo volevo io era uscito. Ma tu l'avevi fatto? Io guarda. Le case sono ben buone anche queste che ci ho io, vanno ben bene, però secondo me quello stereo lì può andare ancora meglio, con magari con un filo diverso delle case, perché io ho fatto delle aggiunture per allungare le case, per mettere una da una parte e una dall'altra, le ho fatto delle aggiunture io, magari perde. Guarda, già, io ti dico una cosa. Io passato sono sceso a Conforama, no? Ho visto uno di questi proprio 2 più 1, ma 2 più 1 sì. Io sono convinto che a questo impianto che c'è tu, quello quell'amplificatore che c'hai, quello che c'è quel mixerino, li metti uno di questi. Ah, è favoloso. Cioè una cosa favolosa, veramente, capisci dentro uno lì, ma poi devi sentire effetti le cose, e non te ne fai più niente di quel mixerino là. Quanto? Non molto, 800 euro. 800? Sì, 800 euro. Certo, ma devi vedere, cioè è uno spettacolo vederlo, è una cosa spettacolare. Sì, ma solo per il coso non mi conviene spendere così tanto, solo per il piatto. Solo per i piatti? Sì, io c'ho solo il piatto con l'amplificatore, poi nell'amplificatore c'era il cubo, no, per il resto. Ma ci puoi attaccare anche quello, non è importante. L'importante è tenere il volume basso, il colore di questo lato è tutto quello che ci attacca. Cazzo, guarda, te ne freghi di tutto il resto, è una cosa veramente eccezionale da fare qua. Ed è provvisto anche il telecomando, lo puoi telecomandare anche da distanza, perché c'ha il suo volume, c'ha due colonnine talmente sottili che tu le vedi, sono fatte un tipo proprio, ma proprio bene, diciamo, un appartamento partono da terra, sono alte, 1,20 m. E perché il tetto sono attivi di colonnine. Ah, è dopo per il cupo e quello del resto, comunque, dopo pescare. Chi? La testa è una bella bestia. Ho capito, Alessia. Chi è Alessia? No, è una bella bestia, Alessia. Ma dentro si dura un Poi immagino con gli impianti Bose che non finne. Guarda, c'era un amico mio con queste casse Bose. So che cosa va. Se gli aeroglifi via. Io va a vedere chiaro una cosa puro. Già, stai parlando di una cosa eccezionale. Ma le casse sono piccole piccole, la moglie siccome lui ci aveva quelle casse Jessen, quelle grandi grandi da 100 watt e non le voleva nella sala, ha detto buscate una sacca di case piccole, sta così, vabbè, e ha disabilitato quelle cose, le ha prese al muro, piccoline piccoline, e su subwoofer l'ha messo dietro lo stereo, ma che momenti zonca, ma pulita la musica, pulita pulita. Se per quello c'è un impiantino con queste casse della vuota che sono tipo quadro, sono quanto una fotografia di quelle 15x10 se non sbaglio, e sono sottili 2,5, la fede è tipo quadro, solo che sembrano dei quadretti, e ti devi sentire. Sono piccole ma pompane, cosa mai? Infatti così c'è, quelli che sono eccezionali, tutto su quella roba lì non si può dire niente. La Bose guarda, sta con un suono micidiale. La musica pulitissima, ma anche le Hertz sono molto buone come casse di macchina. Ce ne sono anche buone. Ce ne burbano, Perché Hertz non costa. Fatto anche così Twitter, li hanno incastonati dove c'erano gli altri originali, non si vede nemmeno, è vero. Però non c'è tutto per, non so, per tutte le marche delle macchine. Sì, ma ha fatto delle modifiche, no? Nel castonato. Largata appena appena il buco, gli ha castonato quelle, ci stanno giuste. Mi pare che vadano più i modelli di macchina un po' più di cose come si chiama, legate le parti un po' alta, ma c'è che cosa, l'aereo? Sì. Fanno tanti tipi di macchine. A me mi ha detto tu qualsiasi casa puoi montare, la puoi montare, non c'è problema. Perché abbiamo tutte le forme di diversi vantaggi. Ma non ho capito per tutte le macchine, però. Per esempio per l'appunto quelle lì non esistono. No. Quindi puoi mettere a pannello dietro. Sì, per esempio quelle modifiche però, ma solo non ne valgono. Io quando ci avevo la cosa, la uno, c'avevo il pannello dietro, ma nessuno se ne è accorto che c'era un pannello originale, hanno messo la tela originale della Fiat sotto. Poi la Fiat 1 non è che avesse possibilità di impianto di altro, quindi solo il pannello c'era. Avevo un bello stereo della Sony, le casse erano, come si chiama, c'avevo i subwoofer che erano dell'Audiola e poi tutto Twitter, Midrange, Woofer, che era della Foreign. Io un giorno ti faccio vedere che cosa ci ho messo io nella mia macchina. Il suono non esce fuori, esce pochissimo, ma devi entrare dentro però. Ci credo. Perché fatto così fuori non sviluppa niente, ma all'interno va, eh. Te l'ha fatto tu in piano? Sì, lo sono fatto io. Troverai mai. Il mio va a 220, eh. A 220 va anche in piazza. La macchina? Sì. E come si fa a fare da 220? C'è un apparecchietto che trasforma la corrente da 12 volt a 220. Un impianto di casa? Cosa? Cos'è un impianto di casa? Non proprio, è una pratica, c'è cioè l'alimentazione a 220, no? E quindi per fare l'alimentazione a 220 nella macchina c'è un affare che è una specie di, come ti posso spiegare, non so se lo conosci tu, è una specie di, come l'alimentatore, no? Che entra a 12 volt e la trasforma in 220 volt. Qua c'ha 75 watt l'uscita, però qua assorbe 50 watt e l'alimentazione che prende da 220, capito? Un trasverso. Senti, non lo so, inverter, lo conosci? Sì. Qua è un inverter. Lo mettono anche nel caldo. Sì. E tu ci fai funzionare. Io ho 75 watt, ma ce ne sono anche i più grossi, 650, 200, 250. Ma non c'è quello che ti possa fare della scossa. Perché attacchi la spina normalmente come la stai attaccando a casa. Avvicino al traverso. E dentro c'è il 2+1 in pratica, c'è il 2+1 con le casse collegate a sotto. E poi c'è il sub che è tirato dall'altra parte. Che fatto c'hai? 75 watt? No, quello è l'incodo, è l'alimentazione. Il box in tutto è 150. 150 nominale. Dovrebbe uscire bene. Che tipo di cassa hai messo? Le sue sono comprese nel box. Ho compreso un box, un 2+1, no? Ma l'hai messo dietro, tutto nel cofano? Tutto dietro, eh. Quindi non puoi caricare nulla, è pieno di roba. No, è perché oggi c'è soltanto il sub, le casse sono fissate sotto. E anche c'è un sub piccolino, però. 200 watt ma è piccolo, non prende molto spazio. Questo è piccolissimo lo stesso, non è grande, non te ne va niente, intanto la musica c'è bene, si sente bene, proprio stereofonica, soltanto che è una caratteristica del 2+1 che non sviluppa suono fuori ma dentro, se alzi non ci stai, eh. Lo so, il mio è un conico, è un subwoofer conico, è amplificato esternamente, non è di quelli amplificati. C'è l'amplificatore separato, che amplificatore è? Alpine. Quindi ho dato uno da 600 watt, io non ce l'avevo nel Renault, così esterno, sembra che zuccava. Vabbè. Alpine. E non ho amplificato la radio, perché la radio era già amplificata. Un Fender lo stavamo, no? La radio se è amplificata, quasi tutti i test sono alla propria amplificazione. Cosa li amplifichi a fare? Infatti. Faccio tutti 40x40 o 50x50. La mia è 50x4. È 50x50, sì, sono quasi tutti così adesso, non ve ne più. Una volta anche a me, 5x5, quindi 5x15 al massimo. E poi mi va al Pine, lo stesso, come dici, lui c'è il gioco, quelli che costano un bel dire. E già l'ho visto, quello è già preamplificato, perché chi vuole, chi gli vuoi fare un'altra amplificazione? Se è amplificato poi non è che vada molto bene. Cosa? Per amplificarlo, cioè, cosa per il muri pulito. Infatti, se vuoi che ti si spacchi le viti, già per fare brani per il 50. E appunto, cazzo, quando è un 50 per 50, mica è poco, no? E più poi c'è l'amplificatore pure, cosa per voi? C'è l'amplificatore e super, no? Cosa per voi? Vabbè. Io non ho mai scelto abbastanza bene. A volte secondo le canzoni distorcono, ma perché bisogna fare la regolazione su ogni canzone. A certe canzoni di dire più bassi, a certi meno bassi, più acuti, capito? Se tu li regoli ogni canzone, molte si adeguano alla stessa regolazione, ma c'è qualcuna che è un po' distorce. Ma lo sai cosa è? Diciamo che è troppo, neanche così. Una volta non avevamo i soldi, adesso sono cari, interessanti. Quella che è controllazione sempre le regolazioni, tu non scegli all'altro, anche il DVD è così, guarda, da un DVD all'altro se li senti bene hanno una hanno sempre una regolazione diversa uno dall'altro. Beh, dipende i toni, le cose che gli hanno dato, ma per il resto va bene, ma se tu senti come senti la chitarra, la macchina mia è una cosa spettacolare, pare che adesso sono in inchiodo. Quanti Twitter c'hai? Due o quattro? Due, davanti, due Twitter, woofer, midrange e su due woofer. Ehi, allora diciamo, vabbè, io ho sentito che è molto chiara, quindi certamente poi nella macchina così poi sempre, cioè ripeto, i CD sono troppo come li registrano anche, ecco, cioè come registrano, sì, c'è più neanche registrare, come li digitano, cioè le tracce come sono fatte, è logico che cambiano l'una all'altra, quei magari che su uno ti dà bene, metti un CD e ti dà bene, non so più niente, mentre ne metti un altro che ha un tipo di musica diversa, insomma c'ha più, appena più bassi, i suoni sono più sintetizzati, ecco che avviene quello. Quindi il mio ti piace il tipo di musica soft, disco, jazz, capito? Ogni tipo di musica deve regolarla. E beh, c'è anche nel mio, tipo pop, jazz, rock, classica, tutte quelle cose lì, poi c'è sub bassi, capito? È una continua regolazione, sì, è vero. Se tu prima, io c'avevo l'equalizzatore, la molto migliore, prima della 500, la prima macchina che ho avuto, avevo un bel equalizzatore, tocca, facevo due casse della Panasonic dietro, la 500 ti ricordi che era scatolata, te le avevo fatto bucare la lamiera, te le avevo incassato due casse da 200 watt, ma tu devi sentire, mi sentivano da lontano. Era pura pazzia, bucare quella macchina lì. Figurati se non ero fissato, me l'aveva fatto il Carletto Manconi, uno di produttori, che adesso lavora da Grishenko, lavora a Piazza Pastelli, eccetera, adesso Grishenko ha fallito. Beh, gli è una lì. Quello di Ciolino, non so se te lo ricordi, quello lì aveva fatto l'impianto, si era pintato, l'aveva tagliato, ma si è stoccato. E dopo questo amplificatore con l'equalizzatore, una bomba io. Guarda, ma l'impianto della macchina. Scusa un attimo, che c'è mia moglie che si era bloccato il digitale. Devo fare. L'ha bloccato. Ma che cosa fa? Si blocca l'immagine e fa tutto. No, niente, aveva sbagliato lì. A casa c'era un paio di giorni fa, mi si bloccava digitale, si bloccava come se fosse un fermo immagine e poi faceva un rumore, poi si riprendeva. Beh, sono andato sul menu, ho controllato e mi dà il 100% di nitidezza praticamente di antenne e il 65% di visione buona, non so cosa, come cacchio è. Comunque adesso una volta che l'ho ripristinato, che lui non lo fa più. Contrario. Oh, ma sono cose che non sono tanto perfetti già, e certe cose le fanno, io ci ho dato tempo e sono ormai sperimentate queste cose, fanno cose strane anche questi box a volte, tipo che spariscono anche canali delle volte e poi sono ancora un po' strani. E quelli interattivi danno più canali di quello senza essere di quello normale, dai. Sì, ma sono un casino di sicuro. Il primo che mi avevo dato era un sacco, che mi avevo dato insieme con che si prendevano quel coso, come si chiama, con l'affitto, con l'africano, e si è bruciato giù di sicuro, ma era stato caricato. No, il mio è il primo, il Thompson. Invece io adesso quello che ho è il Thompson. Come il mio, quello con il telecomando grigio. Il telecomando è grigio. E io guardo il mio, c'è interattivo quello che c'ha il coso per la scheda. E c'è il cassettino per la scheda. Quello è il mio allora. Uno è quello lì, è un altro che è una marca di gatto fuggente, di cane acchiappato. Non si sa che marca è. Un incrociato tra la lavatrice e un cane. No, questo qua è il tuo. Adesso che è stato fatto il software nuovo. Va bene, ma quello della casa era per carità. Poi mi è andato direttamente il Thomson con la bolletta del televisore. No, ma avevo fatto questo stage, faceva schifo, cioè, si è bruciato, il stand-by si è bruciato. Io le ho ricorso per mia moglie, compro una ciabatta, perché lo lasciano acceso. Sì, ma non è questione di accendere, è che devono stage, stand-by, perché sono costruiti per quello, però... Quando le cose sono, cioè queste cose secondo me ancora non sono state sperimentate prima dove delle tricommette. Che ti so, delle cose arrampate di luci e via. Sono ancora in fase di sperimentazione, tutte le cose sono le prime, anche le macchine hanno i difetti e poi le eliminano. Ma sai cos'è? Che noi qua in Sardegna ci hanno preso per l'esperimento e poi loro di là. Adesso sperimentano con noi e poi loro li lavorano direttamente la roba migliore, capito? Va bene, siamo sempre quindi trattati bene, no? Certo, non è che per una volta non ho preso roba per sperimentare, no? Figurati un po' la Sardegna. Adesso in digitale stanno andando tutti. Come tutti? Tutti chi? No, solo qua in Sardegna. E loro non ne hanno digitale gli altri. Roma, Milano, eccetera, eccetera. No, ancora no, nel 2012 in tutta Italia, adesso noi, poi a marzo, sai, noi a marzo ci fanno insegnare gli analogici, fanno tutto. Adesso a gennaio entrano un sacco di canali, circa un 350-400 canali nuovi mi entrano. Ma è automatico, li devi cercare. Beh, no. Sai, c'è il coso del tasso di aggiornamento dei canali, no? Tutto digitale, tutto un casino. Ma allora lo dico, stanno già uscendo le prime televisioni anche direttamente con quella, appena che sento che vanno bene, direttamente la televisione. E io c'ho lo stesso coso di fare così, metto il Sony che ci ho messo, ne metto uno di quei televisori con digitale interno, l'altra me la devo pagare ai punti se ce la faccio, perché me ne mancano una quarantina, sto cercando qualcuno che me ne dia, ma ragazzo banisce, vabbè. A me mancava una quarantina, mi prendo il televisore della Rai 6. Ehi, guarda, io se... secondo come prendo direttamente il televisore col digitale, non se ne vede più, c'erano manco eliminati i fili, i clienti, telecomandi, adesso è un casino. Infatti, tanto. Io ho preso il telecomando nuovo del televisore, avevano fatto un bio, tanto che sono digitale, quindi a GPS di una banda. Ehi, infatti, è tutto, e telecomandi no, che in casa ci sono, tutte le comande che hai in casa. Perché io ho tutto telecomando, stereo, tutto quanto. Una cosa, un capotto così, ha potuto così le cose per casa, e adesso secondo come va, si prende direttamente la televisione, però lo sai cos'è, io ti sto aspettando perché prima voglio sentire gli effetti. Beh, tu fai come hanno fatto con la Sardegna, tu non puoi provare a viaggiare. No, cazzo, no, beh, comunque guarda che c'è adesso da... aspetta, fammi ricordare, da, ecco, dal 30 ottobre non vengono, smetta la fabbrica, la fabbricazione di questi televisori così normali, tra l'altro, per chi non lo sa. E vendono una gatta dagli altri. Vendono per non venderli più questi qua, perché sennò la produzione proprio è stata fermata, capito? Perché si va direttamente con la produzione col digitale. E mi sembra anche giusto, Vabbè. E anche di questi apparecchi digitali fermeranno la produzione. Sì, poi verranno automaticamente, verranno fermati anche quelli. No, comunque proseguono ancora, l'ho letto, proseguono ancora, mi pare per una decina d'anni la produzione di questi. Io c'ho un televisore di radio, di quelli piccolini che c'hanno anche la radio, però è a colori, si vede benissimo. Però io lo perdo, se no non si può attaccare il digitale perché non c'ha preso la scarica. Quelli piatti c'hai come ce l'ho io o come? Oh, è abbastanza lungo, mi rimane, è allungato. Ma qual è quello della radio per caso? Sì. Ah, ce l'ho anch'io quello lì, ho stesso. E non pensare a quei televisori piccoli, ne ho uno al mare, figurati. Oh, io ce l'ho di quelli granditi che c'hanno la radio incorporata, che si usavano prima, io lo mettevo in macchina perché quando c'era Bluetooth mia moglie non voleva uscire, quando eravamo fidanzati ci guardavamo al quadrato, ci guardavamo il televisore a colori, ci guardavamo Bluetooth. E ho capito, sì, cioè io penso ne ho uno nuovo, che è piatto, uno di quelli piatti piccolini, il quadro è addirittura c'è quell'effetto cinema e cose, questo piatto. Quello lì adesso stavo parlando con Antonello, quello di Fusaro, e c'è questa trasformazione che si può vedere, si è attaccato al coso dell'antenna, che c'è anche l'antenna esterna, questo, no? E quanto pare sta dicendo che si può vedere. Può andare in digitale, ma non con quello interattivo, con quello normale. Vabbè, se sapete che si vedono i canali a mano, quelli normali. Mi sta dicendo così, infatti adesso ci devo andare. Io ciò è bello pure in quello che ho. Se no non ti vai più niente, non ti devi rampare tanto, appena gli chiudono a marzo non ti vai più niente. E vabbè, lo posso usare sempre come monitor, come cioè, si può usare. Per dire, con la telecamera, quella antica che ho io ho una telecamera, la sto dando, mi sento interesse, però di quelle, non trovo di quelle digitali, di quelle normali, funziona bene, video 8. E ce l'ho anch'io già, sempre nuova. Però mi ho comprato la digitale, non me ne fosse venuto. Io ce l'ho tratto, la voglia, io ce l'ho avuto. E con quello lì usavo il televisorino piccolo come monitor, capito? Sai perché io? Perché la uso, perché tanto se devo scaricare sul computer, io ho l'apparecchietto per scaricare sul computer, anche quello. Ah. E vabbè, ma... Ma ormai la digitale l'immagine è migliore, tutto quanto. Poi mia moglie era fissata con questa digitale e lei ci ha preso la telecamera e la macchina fotografica. Sì, ma io sono anche, sì, vabbè, anche quella digitale ce l'ho. La macchina fotografica, digitale, cioè ce l'ho. Ma io sono anche molto tradizionalista, mi piace, non so perché, ma sono fissato sul nastro. Su quelli lì sono fissato sul nastro, capito? No, io... noi ce l'abbiamo col CD, col dischetto. Adesso c'è... cioè, adesso avrei visto, c'è anche con la... addirittura con la micro SD. No, no, non ho visto, ma comunque c'è un dischetto tipo CD piccolino, che si infila dentro. È molto pratico. Io non l'ho mai usata quella di piccola fritta. Mia moglie sì, ma io uso molto la macchina fotografica, io un bombo di fare fotografie, la mia è 10 megapixel, fare fotografie al buio, proprio luce spenta, al buio pesto, sembra di giorno. E anch'io ce l'ho così, Zerolux si chiama, e ti sto dicendo, adesso quelle lì c'hanno la, c'hanno, metto la, nella slot del computer la micro SD, no, e non hai niente da attaccare, capito, né cavo né niente, e ti guardi tutto quanto nel computer. Capito, è una camera abbastanza buona, avevo presa quella lì e cosa, la camera, la fotocamera e la videocamera tutti e due insieme, e c'era un'offerta. Che praticamente la prendi lì e la pagavi fa tre mesi con un rattone unico. Adesso diciamo, manca bizzarri, o fra sei mesi mi pare. Non c'è, siamo manca cuti per fare, ci siamo messi un tanto al mese, abbiamo fatto i cuti, un tanto al mese, e abbiamo fatto la materia insieme senza problemi. E io invece quando mi devo prendere quello del genere faccio una cosa, inizio a mettere a parte, poi quando ce l'ho per la compro. Vabbè, quella è l'unica, anche io facevo così con le macchine. Infatti io le macchine le ho prese sempre in contanti, non le ho mai prese a rate. Sì, ma non c'è queste cose di così, me le risolvo così, capito? Non le metto a rate di cose, non le ho mai fatte, perché tanto quando mi viene la cosa prendo, inizio a mettere da parte, tanto. E poi quando arrivo al tanto, magari c'è aggiungere qualche cosa, vado a compro su queste cose, no? Come ci sono mai messo a fare razza, perché poi tanto se ti fai le conto non ne vale la pena, che si va a ne paga pure il doppio. No, questa era senza utilizzi, senza... senza cosa. No, dopo sei mesi pagavo l'unica razza, non le pagavo il razza. Era unico pagamento. Però le rate te le vi in casa, come fai tu, no? Lo mettevo mese per mese da parte, poi ho fatto la posta te, l'ho messo l'ultima parte, quando era raggiunto il brutto, se no ti ho pagato. Sarebbe bello che fosse sempre così, però purtroppo su queste cose va sempre così. E poi hai visto che fanno le offerte, no? Se ti mettono mini rate, tre per i primi 6 mesi, ma dopo ti caccia niente. Perché aumenta? Sì, è la pizza, da voi. Una volta mi ci hanno fregato già su queste cose, su un letto completo con il materasso e tutto. Io volevo pagare addirittura i contanti e loro mi hanno convinto a pagare il rate. Loro ci stavano per i 12 mesi, per i 6 mesi, ma me ne sono pentito, vai, quello che mi hanno fatto. Perché? Non me lo dico. Sì, guarda, allora ti dico soltanto una cosa, che questa roba qua veniva sui 140 euro. Alla fine del discorso che ti sto dicendo mi è venuto 1.600.000 e passa. Che è? Sempre che te lo sto dicendo, perché deve arrivare anche a noi, ma con il televisore che ti hanno il letto, la rete, eccetera, eccetera. Ah, non lo so, io ti parlo che era ancora lì, infatti non ci ho mai preso niente così, è contanti e boom. Abbiamo preso quello che c'è il televisore, materasso, poi ti davano un omaggio e copri cuscini. Era una cosa così anche per me, da quel discorso lì me ne hanno fatto 20, cioè io praticamente non lo volevo pagare, nei 6 mesi lo volevo pagare subito, mi hanno convinto, e mano è lungo se gioco parate, me ne gioco 20, cioè, in 6 mesi, guarda che cosa, cioè una cosa incredibile, in 6 mesi mi hanno portato via più di 1.600.000. Yes, allucinante. E adesso ci facciamo i giudici conti anche noi, perché se non si muove è uguale. E noi lo stiamo cambiando lo stesso, perché il materasso è ancora buono, solo che la rete, Marco si mette a fare il bilibulibu sopra e i pirini sono tutti quanti mulici. Ho capito. Lo sai la prima rata di quella cosa lì quanto mi avevano fatto pagare, indovina? La prima me l'avevo, secondo loro era doppia, no? Me l'avevano mandato, la prima dice sempre, perché avevo telefonato, la prima dice sempre doppia. E allora, quanto bene che sto materasso, se mi avete mandato due rate, la prima è doppia, tanto è. Ebbene, la prima mi hanno mandato, la prima era 253.000 lire. Però le altre non coincidevano perché erano da 153, e poi dopo finito quel discorso lì che ti avevano mandato, me ne avevano mandato altre 4, perché dice che nel frattempo erano scattati gli interessi della, di non so che cosa, la maggiorazione del cambio della valuta e non so, cazzo, guarda, ma no, alla fine li stavo per denunciare. E sei andato al TAR, stavo denunciando. Già, una truffa, mi hanno truffato in pratica, capito, questa finanziaria mi ha truffato, perché alla fine io sono dovuto andare alla cosa che c'era qua a Sassari, a questa filiale che c'era qua a Sassari, e talmente che ha chiuso pure, e li ho fatti smettere, hai capito? Che cos'era questa, che materassiera? Questi erano della Uniflex. Sono buoni. Io da quella data e non hanno mai subito niente, la verità, sono buone, buono, e anche la rete è buona, non ha mai fatto nessuno scherzetto di niente, proprio nuova, certo. No, una cosa che è buona, soltanto che era la finanziaria che era bastarda, hai capito? La finanziaria era? Guarda, Fidomus mi pare che si chiama. L'ho visto. Il Domus, una cosa del genere. No, vabbè. Comunque, non ho mai chiesto nulla al principale per dire, invece ci sono dei miei colleghi che non si devono andare, che devi andare a vedere. Purtroppo. Quelle cose sono sempre brutte, non so, ma sono una cosa che a me non manda niente. Io dormo di notte, quando dovevo pagare a casa, non dormivo di notte per farlo, avevo paura di non farcela, questo, quell'altro, e ce la facevo tranquillo, però avevo sempre paura. A me qualsiasi cosa che, cioè, non c'ho niente adesso, ma quando prendi i gusti ce li hai un po' di attaccati, ed è difficile, molto difficile, da almeno non è troppo, eppure stai sempre con un pensamento nervoso, capito? Beh, che a me mi piace così. Io quando ho finito di fare la casa, un sospiro di sollievo, finalmente mi sono liberato. Come si suol dire, no? Ti dicono poi con la mano che ti scuse, no? Ma prima non riusciva, c'è sempre nervosa. E il cambiamento c'è perché, insomma, poi vengono queste cose, no? Questi pensieri, vengono. Prima non ce li hai, ma dopo ci sono. Beh, io la verità, quando mi sono sposato avevo già tutto in casa. Mi mancava solo la sala. Diciamo la sala c'avevo solo il divano e il tavolino, non c'avevo la cristalliera, il mobile per il televisore, eccetera, eccetera. Tutto adesso ce l'avevo, perché però io mi ho comprato la casa con l'urto, ma ero prima tutta arredata, tende, luci, tutto quanto, che mi voglio, e dopo mi sono buio, vado, ma l'ho fatto tutto con calma. Oh già, lo sai che io ho preso sempre le macchine in contanti. Io so il pensiero di mettermi per esempio 20.000 euro di cambiare di macchine, è una cosa che io non farei mai, te lo giuro. No, ma qui anche io ho sempre pagato in contanti le macchine. Quando ci davano i soldi li ho presi. Ne ho preso solo una da pagare in 4 anni. E però poi mi sono entrati i soldi, sono andato e li ho pagati tutti insieme. Non ho mai pagato la carta, ecco la macchina. Oh, io più forte di me, io pago, a questa che ho feci in contatti, no? Non ci riesco, più forte di me, cioè io preferisco, mettermelo da parte e poi quello ciò, ma sapere che ho 20.000 euro di come fanno tanti. Beati loro, io non ci, se io lo faccio è finita la mia vita, non riesco più a dormire, ne manca, allora sì che la volta che ti fallisco davvero. No, anch'io sono così. Purtroppo per pace, c'è gente che se non ha debiti non sa stare, finisce uno e si muoverà, io, mia moglie mi ha detto l'altro giorno, ce lo compriamo il divano, il coso, il materasso nuovo, la rete, perché serve? E già c'ha 18 anni, questo quella, lo cambiamo perché si è tutto ricambierato il coso. Ma è Marco mica l'ha cambiato ultimamente facendo salti sopra il letto. Beh, bambini sono, i bambini hanno fatto tutto. Bambini. No, tu immagini che io avevo il cellulare a costo, anzi a pagamento, a bolletta. Avevo già stata la possibilità di cambiarlo, ho subito cambiato con la scheda prepagata, perché ogni mese, ogni 2 mesi, cambia sempre con la recina. I miei cittadini erano i punti della recina per dividere la bolletta. Già lo so, perché l'ho avuto anche io. E ho fatto la stessa cosa. Fino a... Poi avevo sempre la paura di perdere il cellulare, che un altro se lo usasse e facesse aumentare la bolletta. No, quello era un altro problema che mi assillava. Capito? Non un problema che mi assillava lo stesso, perché non sapevi cosa fare. Ma c'era un cazzo, se questa volta te l'ho provato di più, poi sa quanto mi arriverà a questo di cose prepagate, non vale. Va. Sì, come viene? Sulla bolletta, già che ha fatto un vulcano, a come mi bastava un vulcano? Pagavo 100 euro soltanto il cane. Sì, infatti, ci guadagnavano un bel, perché allora erano pochi. Io tu pensa che quando vedo la macchina americana nei film, col telefono mi sembrava una cosa dell'altro mondo. Metti quanto puoi mettere, se non c'hai i soldi, buoni di qui o di zio, quando ce li hai, ne metti 60, per dire. No, cazzo, quando ero un bolletto ero troppo spaventato, sempre, troppo, non lo so se facevo 70 a te, ma a me mi spaventava. Sì, la stessa cosa. E poi ho sempre paura, si è perso il telefono, si mettono a fare telefonate fuori, in continente, eccetera, eccetera, che se non ti fanno arrivare i bolletti. No, anche perché poi ti capitavano, magari ti capitava come a me, e quella che non c'era, me la fai fare un telefono, cazzo, quella era terribile per me, ti diceva, se mi trovi a tassare, va, era un ceramico, era. Ed era una gabbina, da mano dentro la gabbina telefonica, il problema era il Motorola, perché anche quella era un bel grande, ma aveva un altro, si chiamava Falcos. A me? Ne mi senti questo portatile? Sì. Perché Antonio? Perché? qualche caponatina è questa? L'Intec si dico a 50. Ha cambiato postazza? E l'altro ho fatto, riposare. Ma ne hai due? Uguali. No, l'altro è Unitec. Infatti Unitec. Unitec è la marca dell'apparecchio che sto usando adesso. Questa marca? K. Questo che sto usando adesso è Unitec. No, comunque volevo sapere se non ti va bene, perché mi ho detto questo qua, questo è poco di radio. Ma cosa, la sabbia di forte. E dopo, poi va bene, riprendete, finché fa parlare, scusa, sono disturbato, va. Sì, disturbato, tu sei venuto quando lui entra, non è un problema. Per favore. Sto dicendo di quella cabina telefonica. Assiduo ti stavo dicendo, è sempre quello che magari lo perdessi e non me ne accorgevo subito, magari quello aveva il tempo di fare telefonate e mi crepava. Infatti di fare anch'io avevo quelle cose che non si è tremita, che erano fatte a un lungo della batteria, e ce l'avevo sempre con una chiusura. I tempi già sono cambiati, le cose fanno piccoli piccoli, però quelli che stanno facendo lui adesso con un numero disegnato non mi piace. Comunque a me sempre io ho sempre tenuto sempre al meglio, ci vuole anche a pure io per mamma non puoi stare, adesso io mi sono rotto le scatole, prima lì che prendevo tanta tecnologia di quelli che costano con la telecamera, ora mi sono rotto le scatole, ogni tanto si fasciava lì, li ho tutti cambiati, tirati, poi adesso mi sono preso il telefonino di quelli Nokia normali, va benissimo. Non prendo più altre paginate, non prendevo le altre. Guarda, alla fine questi, grazie a Dio, sono un occhio di parecchi anni, sempre, e anche un saggio, c'ho un saggio che è nuovo. Io ho il 3310 della Nokia, ho cambiato a dire poco una trentina di telefoni, non solo io e mia moglie, mia figlia, ogni volta che li si rompono il telefono usavano quello, sempre funzionando. Guarda, io ce l'ho rotti niente. Perché ce li ho tutti anche. No, io mi versavo. No, io ce l'ho tutti. Ce l'ho tutti e funzionanti anche, tutti quanti, no? Logicamente molti adesso so che la batteria non va più, però. Molti che la batteria non si trovano, vabbè, comunque. Io funziono lo stesso. Beh. Sempre con la stessa batteria, quello che con 3310 o 3330, se non mi ricordo se è 310 o 330, ma erano quasi uguali. Beh, fatto sta che funziona sempre. Abbiamo cambiato 10 telefoni io, 10 mia moglie, 15 mia figlia. Beh, sempre funziona. Cazzo, però già, roba di schede, cioè intanto li prenderanno per miliardario. Io stesso, io nulla che dentro me l'hanno fregato, c'avevo anche le telefonate dentro, quando ho preso il telefono nuovo e non c'è più, non ho proprio più interessato a me. Se no guarda, dite le testate, se mi fanno un controllo, l'intendente di finanza mi dicono che sono alla pari di Berlusconi, c'ho tutte le schede intestate, anche di mia madre. Antonio, vabbè, Antonio c'è la sua, ma un periodo c'aveva anche una mia, una Vodafone. C'ho Tim, c'ho Vodafone, c'ho Wind. Altro, non me la metto più, anche questo ricordo di schede che faccio intestare. Ma guarda, persino anche quella di mia figlia, tutto intestato a me. Ti vuoi fare una bacheca con tutte le schede? Sì, la scelta del numero, pensa che ne ho anche... altre due della della Wind e di quello che c'è in negozio, anche, anche quello è prestato a me. Il negozio poi è un principale come un vostro e gestione, diciamo. No, è un principale, molto. Il vecchio adesso c'è il figlio, ma siamo anche amici, siamo amici da tanto tempo, capito? E lui non lavora, lui non ci va in giro. E quando è necessario, tipo domani mattina già esce. E domani tu non ci vai, vero? No, domani mattina devo andare a fare una visita. Io lunedì ci devo andare, ma non sembra la giornata, già chiesto il permesso. Ma lì è secondo me. Se hai chiesto una cosa per fare una visita, te la deve dare per forza. E nel periodo natalizio è un casino. E poi non vedo vedere. Vabbè. Però se è per cose di visita non c'è perso, eh. Non so, se non puoi prendere malattie, se non trovo te lo puoi prendere malattie. Ma magari tu gli chiedi permesso di fare una visita e non ti può dire no, se poi ti mano di malattia e ti fai dietro. Prende lui sì, e tu? E dimmi. E poi in Italia dice qualche cosa. Sì, allora. Volta che stavo dicendo che domani è il convento, si parla. È così. Contego. Domani cambia la pista Antonio. Ah, tu vai alto. Figlia, io vado a lavorare. Pagare. Non pensavo che stessi dicendo il principale a Babbo Duio, che andava insieme a lui. Adesso stavo pensando che nemmeno tu lavorassi. Sì, lui lavora, esce con lui in pratica. In pratica escono loro due. Poi non lo so se io finisco la vita, se sono in grado di andare, o se mi mettono a toccarti cosa negli occhi, di nuovo non ci vedo niente. A troppina. E allora, mia volta con la troppina. Lui è buco vero. Tu pensa che una volta sono andato a fare la visita, no, a Lina. Mi metto la troppina negli occhi. E mi fa, ma già venuto in compagnia, sì. Ho detto, no. E allora qui non si muove, sino quando viene una persona. No, no, sta venendo mia moglie a prendere. Invece non era vero, c'era la macchina lì. A che video dobbiamo vedere futuramente alle piatti, un garage. Non capivo un cavolo. Sono avvicinato alla macchina, mi sono usato dentro. Cazzo, non capivo se potevo guidare o no. Sta arrabbiato però per fare all'inizio, dovevo aprire il finestrino della macchina per vedere. Senti, tu hai problema di. Io lo faccio perché sono diabetico e praticamente in diabetici c'è il problema del distacco della retina, forse va borsa. Quindi ogni anno la faccio. Faccio la visita, ma grazie a Dio, sino adesso è andata bene. Babbo c'ha un glaucoma all'occhio sinistro. Ma non sapevo che Gianni era così. Problemi di vista a Gianni. Però problemi di vista grazie a Dio da lontano, non da vicino. Ma è una questione di età. Che succede a 40 anni, aver bisogno degli occhiali per vedere da vicino. Sono in cura per quello io già, intanto a fare queste visite, appunto perché ho avuto questo glaucoma, adesso ho fatto tutto, ma ho fatto anche il laser, mi sembra che abbia recuperato. Appaga. Io ti rispondo, lo vedo a 10 decimi da lontano, solo che da vicino lo vedo che ha fatto fumo, mi si abbaglia la vista e non vedo niente. Però ho bisogno di un paio di occhiali, ho comprato in farmacia, la modica ci fa 17 euro e vedo benissimo. Anche io sono un po' così, vero, vero. Fatti vedere, perché se no quella prendi da vicino, la prendi il tutto. E da lontano si vede un po' bene. Anche io ho 10 decimi. Ma quando la notte nel tuo punto? Ma non hai già noci. No, no, ciao. Ciao. E tu? Io mi stavo guardando lo sport, ho visto, ho lasciato tutto acceso, adesso spengo tutto e mi clicco. Va bene, ciao a tutti signori, buona notte, a domani. Buonanotte. E anche io fra poco ce ne andiamo, che domani devo lavorare. Pertanto se è bene tranquilla che non devi travagliare domani. Sì, no, sto chiudendo anch'io. Ciao Claudio, buonanotte. No, no, chiudo anch'io adesso già, altro che no. Così me ne addormento anch'io, cerco perlomeno di addormentare. Ok, ciao Gianni, ci risentiamo tutte le prossime. Ciao per Paolo, buonanotte, ciao Antonio, tutti quanti, mi ascolto, saluti carissimi e buonanotte. Io non lo prego. Oh, anche non so così inteso, ho detto la buonanotte, mi. Adesso ci sta anch'io, buonanotte già. Allora, parlo tutto. Stiamo iniziando Marco da Palotte. Vabbè, va. Buonanotte a tutti. Anche agli ascoltatori. No, ti ho capito, tanto che questo qui non è sensibile, comprato il tasto, mi ha detto, ho capito. Ah, mi vedi già lo dà, portanti veloci. Ciao a tutti, buonanotte. Antonio, Pierpaolo e tutti. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte, no, buonanotte. Cosa, molto veloce, tanto. Cazzo, ho tutto, ma ho compreso. Ma trommiti che tu cazzo devi rendere il numero. Cazzo, via. Non ora segui tu cazzo, il pulsante. Hai rotto le palle con questo pulsante, cazzo, buca, veramente non so una cosa che mi ha fatto passare. E va, se la città va a fare un tutto, va a tomar salvata di noi, tanto, e va, ciao. Vabbè, va, non ho compreso, cazzo, vieni.